Allora, incominciamo. No, io faccio solo gli onori di casa, intanto vi saluto tutti. Dico solo, abbiamo una lista un po' lunga di persone che devono intervenire e quindi invito tutti quelli che interverranno a cercare di stare un pochino contenuti nei tempi, senza però, no, come dire, dover ridurre, sentire con questo di dover ridurre il contenuto del loro intervento. Avremo un intervento o due in remoto perché da fuori Milano e per la ragione per cui c'è il monitor qua allo schermo. L'iniziativa va in streaming audio in diretta, viene registrata audio e video. E il video, la videocamera è là e registra questo pezzo qua, diciamo, là di tavolo. Basta. Adesso do la parola a Lina che fa un'introduzione a nome del gruppo promotore. Seguirà poi gli interventi che magari tu riesci a declinare durante. Ok, va bene. Io resto qua e faccio un po' il cronometro, giusto per controllare la cosa, il vigile. Va bene. Ah, sì, il microfono serve per la registrazione dello streaming, anche dopo nelle domande lo daremo. Ok, allora ho cercato di sintetizzare la discussione che abbiamo avuto, centrandola sui punti a nostro parere importanti che potessero riallacciarsi poi agli interventi che seguiranno. Per lasciare più spazio ai numerosi interventi previsti, li ho scritti in modo da non perdermi in divagazioni varie, esempi a non finire. Quindi adesso vi faccio presente sul ragionamento che mi ha fatto. Allora, così come abbiamo scritto nell'indizione di questo incontro, lo sciopero della fame ad oltranza di Alfredo Cospito, ormai al 39esimo giorno, al 39esimo giorno, e degli altri compagni che in solidarietà lo accompagnano, ha portato all'attenzione anche di diversi mass media la questione dell'articolo 41 bis, ovvero del regime di detenzione più drastico e punitivo applicato nel circuito carcerario, che si regge sull'assoluto isolamento fisico, mentale, sociale attraverso la deprivazione sensoriale. Un regime di tortura democratico la cui finalità è quella di cancellare l'identità del prigioniero per indurlo con la coercizione dell'isolamento assoluto a collaborare. Rispetto a questi due punti, rispetto all'attenzione rivolta questa volta, a differenza degli anni precedenti, quando è stato applicato il 41 bis dai mass media, penso che Cimini potrà dirci qualcosa in più, così come Flavio e Margherita potranno spiegarci meglio cos'è il 41 bis. L'istituzione del regime detentivo previsto dall'articolo 41 bis ha una genesi che parte da metà degli anni 70 con la riforma penitenziaria e che nel 77 vede la costruzione delle carceri speciali, le supercarceri, gestite direttamente dai carabinieri alla direzione dell'allora della Chiesa, generale della Chiesa, a cui anno dopo si aggiunge la formazione dei famigerati braccetti della morte, ovvero sezioni di massimo isolamento. E nell'82 si applica l'articolo 90 della riforma carceraria che prevede, per supposte ragioni di ordine e sicurezza, la sospensione di tutti i diritti garantiti dalla legge stessa. Un inciso, molti di voi si ricorderanno la manifestazione che ci fu a Voghera contro l'abolizione dell'articolo 90, a cui lo Stato reagì mettendo in campo uno schieramento enorme, mai visto, e una violenza inaudita. Il 41 bis è la prosecuzione di questo dispositivo, infatti ne riprende anche la formulazione, ma su questo chiaramente Pippo sarà sicuramente più preciso e potrà entrare più nel merito. Cosa hanno in comune tutte queste disposizioni? Carceri speciali, braccetti della morte, articolo 90 e per finire l'articolo 41 bis. Nascono tutte come risposta eccezionale, per casi eccezionali, limitati nel tempo, a una situazione definita emergenziale, a cui lo Stato, soprattutto in una fase di crisi profonda, deve far fronte per poter attuare i piani di ristrutturazione necessari al capitale per la propria sopravvivenza. La risposta può avere un duplice carattere, diretto o più propriamente preventivo, a seconda dei periodi storici e dei rapporti di forza esistenti. Negli anni 70, come risposta alle continue rivolte di massa, alle evasioni o tentativi di evasione dalle carceri, organizzate e frutto dell'unione della lotta tra detenuti comuni e prigionieri politici appartenenti soprattutto alle formazioni combattenti. In seguito a quello definito dallo Stato terrorismo rappresentato dalle formazioni armate in Italia, all'indomani della strage di Capaci del 92, alle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, dopo l'attentato alle Torri Gemelle negli USA del 2001, alla lotta al terrorismo internazionale con la caccia all'islamico. In questi decenni abbiamo visto l'appropriarsi e il consolidarsi dei dispositivi di segregazione carceraria attraverso sempre nuove emergenze a cui facevano capo i rispettivi pacchetti sicurezza, le cui ricadute normative erano molto più ampie dell'emergenza del provvedimento stesso, cioè dell'oggetto del provvedimento. Così l'emergenza si allarga e si estende e diventa cardine della governance di ogni governo. Si mettono in atto operazioni come strade sicure, militarizzando i territori attraverso l'utilizzo di sistemi di sorveglianza e la presenza dell'esercito nelle strade. Si gestisce l'immigrazione attraverso l'istituzione della detenzione amministrativa e di veri e propri campi di concentramento, al confine anche della legalità borghese. O come nel caso recentissimo della gestione pandemica emerge la natura autoritaria e disciplinatoria a cui sono state sacrificate reali necessità sanitarie. Un aspetto che diviene sempre più evidente è che la natura limitata e circoscritta dell'emergenza non ha invece scadenza, diventando inesorabilmente, così come abbiamo scritto anche nell'indizione di questa assemblea, una norma con cui regolare le contraddizioni sociali. Un meccanismo su cui si basa l'emergenza è la presentazione attraverso i media di un consenso generalizzato ad un allarme sociale che orienta l'opinione pubblica e ne diventa di fatto espressione. Cambiano quindi di volta in volta i paradigmi, se ne costruiscono di nuovi, per motivare e far accettare un approfondimento dei dispositivi repressivi e di controllo tecnologico, che istituzionalizzano la normalità dell'emergenza e lo stato d'eccezione che diventa sinonimo di stato di polizia. Ciò avviene in tutti i campi sociali, lavorativo, abitativo, sanitario, giovanile. Tutto ciò è da considerare come parte integrante di un processo complessivo di ristrutturazione del capitale a livello globale, dove prevale la tendenza ad un significativo salto tecnologico e militare che necessita per concretizzarsi di una popolazione addomesticata e passiva. Uno scenario di guerra, manifesta o latente, esterna ed interna, in cui è bandita ogni forma di critica. Un contesto in cui l'accettazione anche parziale della narrazione dello Stato porta inesorabilmente alla desolarizzazione, alla divisione del movimento di classe e al sostanziale reclutamento fra le sue fila. Si pensi per esempio a quanto è successo sia per la questione Covid sia per adesso la guerra tra Ucraina e Russia. Si impone quindi un atto di adesione alle ragioni dello Stato, pena il trovarsi tra le fila dei cattivi, trattati come nemici dell'ordine pubblico e dello sviluppo e giudicati non in base a ciò che si fa, ma per ciò che si è. Significative in tal senso sono la condanna di primo grado, per esempio per associazione a delinquere compagni del comitato di lotta del Giambellino, o le medesime imputazioni toccate ai sindacati di base Sicobas e USB per le lotte nel settore della logistica, le denunce per associazione a delinquere ai disoccupati di Napoli e non ultimo il decreto anti-rave, il cui scopo presumibilmente sarà in funzione anti-picchetto presidio nelle lotte più combattive. Su questo credo che avranno molto da dire se i compagni del Sicoba, se del Giambellino o altri che parteciperanno all'assemblea. Va detto inoltre che l'emergenza, caratterizzata dal tema della sicurezza e la rappresentazione del consenso, costituiscono un volano per accelerare i processi già in atto da tempo di centralizzazione delle funzioni di comando, che consente all'esecutivo di avocare a sé poteri decisionali straordinari in tutti i campi sociali. Ci sarebbe molto da dire, ma in sintesi appare evidente come questo faccia saltare le regole, seppur formali, di confronto e dialettica proprie di uno Stato che si vuole democratico. Nel caso del regime detentivo del 41 bis, per esempio, dal 2009 è il solo Tribunale di Sorveglianza a Roma che decide in merito alla disapplicazione di tale regime e alla concessione di liberazione condizionale, misure alternative e di qualsiasi altro beneficio penitenziario. Nel caso della pandemia, ad esempio, venivano dati poteri straordinari di direzione al generale Figliuolo. La battaglia di Alfredo è il senso di questa iniziativa. La battaglia di Alfredo, di Anna o Anne, Ivan, è una lotta contro un regime carcerario inaccettabile, che deve essere abolito, senza distinguo per tutti. A questo regime sono sottoposti detenuti con accuse di mafia, oltre che islamici, anarchici e compagni delle BR. Tre compagni delle BR. Pone come centrale la questione del carcere dalla sua punta più alta, espressa con il 41 bis, passando per le sezioni di alta sicurezza, dove da 42 anni sono reclusi compagni appartenenti alle BR, fino alle sezioni comuni, le cui condizioni sono venute alla ribalta nell'ultimo periodo solo a seguito delle rivolte durante il periodo Covid e i continui suicidi nelle carceri. Questo incontro a più voci vuol contribuire a far emergere cos'è il regime di 41 bis, ma in generale il sistema carcerario, insieme alla necessità di far diventare la lotta contro il carcere parte integrante della lotta di classe contro il capitale, che è l'unico responsabile delle condizioni di sfruttamento, di povertà, delle devastazioni ambientali e di saccheggio dei territori e della repressione in atto. Adesso lascerei la parola. Adesso? Sì, abbiamo, no, una... abbiamo la registrazione. Sì, abbiamo una registrazione. Grazie. Sì. Allora, quelli che sono in piedi dietro possono uscire nel cortile, entrare dalla cucina e sedersi qua. Abbiamo delle casse all'esterno e ma mettere una fila in più. L'audio è dato anche in libreria e presumo che si possa sentire anche in archivio di sopra. Quindi c'è dello spazio oltre alla dietro e con la possibilità di ascoltare. Adesso abbiamo un contributo telefonico che ci ha rilasciato venerdì Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato di Alfredo, che, con cui vogliamo incominciare, perché è da lì che questo incontro prende piede. Diciamo, l'idea è di andare aprendosi verso, partendo da questa questione centrale. Allora, se poi... Buongiorno, stiamo parlando con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato di Alfredo Cospito. Ciao Flavio. Ciao a tutti, ciao. E tutte voi. Allora, ecco, la prima cosa che avevamo intenzione di chiederti era di illustrare anche un po' brevemente il percorso processuale di Alfredo, che ha condotto poi alla decisione di riservargli questo regime di 41 bis. Sì, allora, astrattamente non è esattamente, o non è l'unica ragione per cui è stato sottoposto, almeno in quelle che sono le motivazioni addotte dal ministro con il decreto applicativo, non è solamente il suo percorso detentivo, perché non c'è, cioè, detentivo o comunque processuale, perché non sarebbe sufficiente, non sarebbe un elemento sufficiente per poter adottare il provvedimento. Vi sono più necessità, tra le quali certamente che aver riportato condanna per un reato associativo, aver riportato condanna per un reato previsto dal primo comma del 4 bis, e che poi ci sia la possibilità di formulare sul soggetto un giudizio di pericolosità così da, da giustificare la necessità di impedire la comunicazione tra interno e esterno al carcere, perché chiaramente il 41 bis ha una ratio che è quella maturata nel contrasto al fenomeno stragista mafioso, per cui è chiaramente tutti gli argomenti, almeno per come sono stati utilizzati in questi 30 anni, sono certamente riferibili a una sostanzialmente una casistica tipica che è tipizzata appunto da quei fenomeni gerarchici molto strutturati, piramidali, come quelli mafiosi o comunque legati alla cosiddetta criminalità organizzata. Chiaro che tutto questo un po' recede e trova una sua intrinseca debolezza quando viene invece estesa a un anarchico, tra l'altro Alfredo è il primo anarchico in Italia ad essere sottoposto a questo regime differenziato. E comunque per quanto riguarda l'aspetto relativo alla condanna, dopo i fatti di Adinolfi, dopo il fatto di Adinolfi, ovvero la gambizzazione di questo amministratore delegato a Genova, Alfredo rivendicò come l'atto come compiuto da una cellula aderente alla Fai Free, e ciò determinò chiaramente nel quella che era l'antiterrorismo di Torino la volontà di riaprire una serie di fascicoli che erano stati archiviati nel corso degli anni, relativi sempre ad attentati rivendicati con questa stessa sigla, non come il nucleo Fai Olga, ma bensì comunque come reati commessi da cellule della Fai. C'è stato sicuramente secondo noi il discorso è molto articolato, meriterebbe sicuramente la necessità di un approfondimento di diversi aspetti, perché noi censuriamo che siano giunti ad affermare la responsabilità di Alfredo in ordine ad alcuni reati, tra l'altro gravissimi, come quelli di strage poi riqualificati dalla Cassazione in strage politica nel luglio scorso, o come sulla scorta di elementi assolutamente deboli, congetturali, che non integrano in alcun modo gravi indizi di colpevolezza idonei a suffragare una responsabilità poi per fatti totalmente gravi. Però sappiamo che negli ultimi, l'abbiamo scritto anche in un comunicato, che in realtà negli ultimi 40-50 anni il ruolo della magistratura si è piegato alla necessità della politica, ovvero la magistratura si è resa parte e viene definita magistratura di lotta, un professore universitario le chiama magistratura combattente, sostanzialmente una magistratura che non accerta più, come dovrebbe fare nella giurisdizione penale, la sussistenza di reati e la scrivibilità degli imputati, ma bensì si presta a una funzione di contrasto, quindi da un punto di vista teleologico, a una finalità, il processo, che non è più quello di accertare un fatto e di attribuirlo ad un soggetto, ma bensì quello di contrastare fenomeni. Quando si contrastano fenomeni, chiaramente le garanzie processuali recedono rispetto all'interesse che è di natura prioritaria, ovvero quello di affermare una ragione di Stato, cioè affermare una finalità, e se si afferma una finalità, chiaramente ogni fine, cioè il fine giustifica i mezzi, ogni mezzo è lecito, e per cui chiaramente le garanzie processuali recedono di fronte a questa necessità, a questo obiettivo ultimo, a questa finalità. Ciò è avvenuto in maniera certamente molto evidente nel processo Schettamanent, ovvero c'è stata la volontà, sempre a nostro giudizio, come tesi difensiva, però come valutazione difensiva, però, che gli argomenti spesi dal pubblico ministero, ritenuti idonei dalla Corte, erano in realtà assolutamente risibili. Non avrebbero probabilmente condotto neppure un giudice monocratico a condannare un reo per aver sottratto magari della merce da uno scaffale di Decathlon. Nel nostro caso sono stati ritenuti sufficienti invece per attribuire due ipotesi di strage, tra cui appunto questa strage contro la sicurezza dello Stato, che è considerato il reato più grave nel nostro ordinamento giuridico e prevede come unica pena l'ergastolo. Per cui questo, diciamo, l'incipit. E chiaramente da questo, nonostante la condanna per Olga, nonostante l'imputazione per questi gravissimi fatti a Torino, Alfredo ha sempre continuato a partecipare al dibattito della propria area politica, del movimento anarchico, pubblicando articoli su riviste, partecipando chiaramente in forma mediata per cui con contributi scritti ad assemblee, a momenti di confronto del movimento anarchico. E chiaramente le idee di Alfredo sono idee ritenute dalla DNA, idee pericolose, diciamo pericolose perché chiaramente incitano o comunque spronano, comunque affermano un determinato metodo che dovrebbe appartenere agli anarchici, un metodo di scontro, un metodo di anarchismo d'azione, e per cui la DNA, su sollecitazione della Procura di Torino, a un certo punto ha ritenuto di perorare questa ipotesi di sottoposizione al 41 bis, ricorrendo da una parte la condanna oramai in via definitiva, o comunque sufficiente l'imputazione, non è necessaria una condanna in via definitiva, comunque nel momento in cui è stato applicato Alfredo c'era già una doppia conforme, per cui una duplice sentenza dei giudici di merito di primo grado e di appello, che Alfredo avrebbe avuto un ruolo di promotore dell'associazione FAI, per cui da una parte un elemento ricorreva, almeno astrattamente, dall'altra parte una pericolosità di Alfredo, e hanno ritenuto di individuare in questa partecipazione al dibattito non una mera facoltà di Alfredo, cioè un esercizio di una garanzia, di una prerogativa, di un diritto che è previsto dalla nostra Carta Costituzionale con l'articolo 21, quindi appunto di manifestare il proprio pensiero politico, ma bensì come se Alfredo attraverso questo pensiero politico stesse in realtà mandando segnali e messaggi all'esterno a suoi presunti sodali per farli agire. Così teoricamente, diciamo, riuscendo a colmare questi vuoti, questi elementi che effettivamente devono ricorrere per quella che è la magistratura, per quelle che sono le decisioni giudiziarie che ci sono sul 41 bis, nonché il dettato stesso normativo del 41 bis che richiede questa pluralità di elementi che devono ricorrere tutti congiuntamente. Di tal che, leggendo apparentemente il decreto applicativo, teoricamente un senso ce l'ha, diciamo, che corrisponderebbe effettivamente a quello che è l'introduzione e la ratio ispiratrice del 41 bis. In realtà, sempre in ottica difensiva, invece ciò che emerge è che quello che si vuol fare attraverso questa sottoposizione è impedire, è neutralizzare Alfredo, neutralizzarlo come appunto nel ruolo della magistratura di lotta, ovvero neutralizzare l'imputato, metterlo in condizioni di non più nuocere, sostanzialmente seppellendolo nel 41 bis. Cioè quello che fa paura di Alfredo è che Alfredo parla, Alfredo ragiona, Alfredo argomenta, Alfredo comunica, Alfredo, diciamo, esercita quello che qualsiasi animale politico, qualsiasi soggetto che partecipa a un ambito politico collettivo fa, ovvero esprimere la propria idea. Per cui in realtà noi riteniamo che ci sia una evidente torsione anche della stessa finalità del 41 bis, che viene sì formalmente adombrato, formalmente argomentato come se fosse riferibile alla necessità di impedire la veicolazione di messaggi e di obiettivi all'esterno, mentre invece nella realtà quello che si vuole fare è impedire Alfredo di parlare. Sì, dunque, quindi il primo dicembre ci sarà l'udienza, no, dal Tribunale di Sorveglianza per il ricorso contro la decisione, no, di riservargli il regime di 41 bis, che poi peraltro dopo ci hanno messo più o meno 6 mesi, no, a fissarla questa sì. Data. Anche lì non ci sono molto chiari i termini in cui queste udienze debbano venire fissate, perché voi avevate rispettato invece i termini di presentazione del ricorso, no? Alfredo era stato messo in 41 bis il 5 maggio di quest'anno e voi avvocati il ricorso l'avete fatto in tempi corretti. Poi non so se si può pensare che finalmente l'abbiano fissata, anche proprio perché Alfredo poi dal 20 ottobre ha iniziato lo sciopero della fame ad oltranza contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Ma comunque cosa si può prevedere per questa data, per questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma? Allora, Alfredo, diciamo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha impiegato 7 mesi cioè un tempo infinito per decidere e pronunciarsi su quello che altrimenti è un atto amministrativo esercitato dal ministro, per cui un membro dell'esecutivo, e pertanto anche nella divisione dei poteri, che sono 300 anni che viene affermata per uno Stato liberale, non appartiene certamente all'esecutivo, ma bensì alla magistratura. Tant'è vero che l'articolo 41 bis senz'altro prevede, e probabilmente lo potrete approfondire poi nel corso dell'iniziativa, perché era una vexata questio anche degli anni 70 rispetto all'articolo 90 e alla possibilità per il ministro e non dell'autorità giudiziaria di sospendere il trattamento ordinario per i detenuti. Comunque quello che prevede la norma è che il ministro chiaramente emette questo decreto applicativo del 41 bis, ma teoricamente la norma, il 41 bis stesso, nei commi successivi, quello che stabilisce è che entro 10 giorni l'autorità giudiziaria, la magistratura, debba esprimersi se corrispondano, chiaramente se quel provvedimento corrisponde effettivamente a ciò che prevede la norma e per cui se è legittimo oppure se è da annullare. In realtà questi 10 giorni sono un termine, si chiamano o termini ordinatori e non perentori, per cui diciamo non è previsto che il soggetto ritorni indietro perché la magistratura non si esprime, ma semplicemente come se fosse un consiglio, come se fosse un adagio, cioè tu magistrato devi decidere entro 10 giorni, ma se poi ce ne impieghi 10, 11, 25 o 7 mesi, ma nel nostro caso sostanzialmente non succede niente, la persona continua a rimanere per volontà del ministro, per cui con atto amministrativo in una condizione così afflittiva come il 41 bis, che è chiaramente, diciamo, già questo è un atteggiamento francamente censurabile. Noi dovevamo rispettarlo il termine, perché il nostro termine invece è perentorio, per cui se noi non avessimo rispettato il termine 20 giorni per impugnarlo, saremmo rimasti acquiescenti al provvedimento del ministro e sarebbe stato 4 anni in 41 bis senza avere neanche la possibilità di sottoporre all'autorità giudiziaria il termine valutativo, cioè se effettivamente ricorrono o meno le condizioni che legittimano il ministro ad applicarlo. Quello che ci dobbiamo aspettare, per cui l'hanno fissato il 1° dicembre e secondo, per quello che mi consta, io direi non perché credo entrato in sciopero della fame, ma bensì perché siamo riusciti, diciamo, un parlamento tramite, diciamo, questa attività che si è andata a determinare da quando Alfredo ha deciso di entrare in sciopero della fame, questa attenzione ha portato anche dei parlamentari a proporre delle interrogazioni. In una di queste interrogazioni chiedevamo noi come difensori, io come difensore chiedevo a questo parlamentare di chiedere proprio al ministro come mai fossero passati a quell'epoca oltre 6 mesi senza che ci fosse stata ancora fissata l'udienza camerale al tribunale di sorveglianza. Dopo pochi giorni dalla presentazione di questa interrogazione ci è arrivata la notifica, per cui io francamente l'attribuirei a questa situazione, che era francamente poco giustificabile anche per il governo, probabilmente ci saranno state pressioni poi perché ci fosse effettivamente una fissazione immediata di questa udienza. Cosa ci dobbiamo aspettare? Chiaramente avremo con ottime probabilità un procuratore della DNA che rappresenterà, visto anche quanto è tecnico l'argomento relativo al movimento anarchico e al fatto che Alfredo sia considerato un membro della PAI, per cui immagino anche che possa essere il rappresentante della DNA in udienza, che ha quelle conoscenze che possono condurlo a replicare sia le nostre doglianze che ad esporre le ragioni per cui debba essere confermato al tribunale di sorveglianza. E, a mio giudizio, gli elementi non ricorrono assolutamente, il tribunale di sorveglianza dovrebbe annullare, perché è evidente dallo stesso tenore degli argomenti spesi sia nelle memorie sia nel decreto stesso, che nelle memorie e nelle annotazioni che sono giunte al tribunale sia della Procura di Torino, ovvero dell'autorità giudiziaria che aveva sollecitato l'emissione di questo provvedimento, che da parte della DNA, diciamo, se i giudici riterranno di interpretare il loro ruolo come effettivamente terzi ed imparziali, per cui come argine anche a questa esondazione della funzione della giurisdizione, intesa come appunto contrasto a fenomeni, ma riterranno effettivamente di essere puntuali nel loro lavoro e per cui nel verificare se esistono o meno le condizioni per mantenere il predio al 41 bis, io credo che dovrebbero annullarlo, perché è evidente che attraverso questo strumento quello che si vuole ottenere è che Alfredo non discuta più con i suoi compagni e le sue compagne all'esterno di questioni politiche, anche perché alcune espressioni che vengono utilizzate, che ahimè io non posso riferire in questo momento, però sono chiaramente specchio e fanno emergere fulgidamente che questo è il reale obiettivo. Alfredo non manda pizzini, Alfredo non manda indicazioni di sorta a personaggi vari, sodali di una presunta associazione, come è stata ritenuta a Torino, ovvero che la FAI sia un'associazione, non manda appunto a sodali all'esterno indicazioni su come agire o su quali obiettivi colpire. Alfredo parla, argomenta, ragiona, discute, dibatte di argomenti legati al mondo dell'anarchismo. Se così è, teoricamente non sussistono i presupposti per l'applicazione del 41 bis. Questo è l'auspicio, chiaramente bisognerebbe avere doti divinatorie per sapere come andrà a finire, i tempi. Ecco, e appunto i tempi di risposta ti volevo anche chiedere. I tempi di risposta non sono, cioè, perché è chiaro che anche il fatto che Alfredo sia sottoposto o sia attualmente sciopero della fame, e quando verrà discusso questo reclamo, Alfredo sarà al 42esimo giorno di sciopero della fame, potrebbe, spero, indurre in una maggiore celerità nella risposta, visto che tra le ragioni che lo inducono a questa forma di lotta vi è proprio il fatto di star subendo un regime detentivo impossibile da tollerare, per cui spero che sia breve, però potrebbero essere anche un paio di settimane. Noi in realtà lo immaginiamo anche come non una risposta breve, cioè che non seguirà immediatamente nei giorni seguenti. Speriamo che chiaramente anche l'interesse mediatico si è sviluppato intorno alla vicenda di Alfredo possa invece condurre diversamente a una tempestività nella risposta, e che speriamo anche possa soddisfarci. Infatti questa era poi l'altra cosa che ti si voleva chiedere: come valutavi la campagna di solidarietà e la rilevanza mediatica che sta avendo questo sciopero della fame di Alfredo ad oltranza, a cui poi si sono aggiunti anche altri compagni e compagne, e insomma una tua valutazione sull'effetto, anche sulla risonanza anche mediatica della campagna di solidarietà che si sta facendo per Alfredo? Beh, io per quanto quello che posso dire, certamente Alfredo è sicuramente, diciamo, corrisponde certamente ai suoi desideri che la sua protesta non fosse confinata all'interno delle quattro mura del carcere Bancali, ma avesse un respiro che potesse giungere all'esterno, contaminare, contagiare, diffondersi e possibilmente creare anche schieramenti, nonché dibattito, suscitare dibattito su 41 bis e ergastolo stativo. Per cui sotto questo punto di vista penso assolutamente che se potesse sapere tutto quello che si sta compiendo all'esterno, ne sarebbe certamente felice ed esprimerebbe sicuramente soddisfazione. Nella realtà io non so chiaramente quanto possa poi questo incidere in termini di ottenimento della ragione, sempre che si possa immaginare di ottenere ragione da chi appunto nella nostra valutazione negli ultimi i 50 anni ha interpretato il suo ruolo in termini di ottenimento e realizzazione di una ragione di Stato, e per cui non so quale modo possa effettivamente, se possa incidere in quale forma, però certamente il fatto che se ne discuta ha permesso di sollevare questa cappa di silenzio che altrimenti avrebbe certamente la controparte istituzionale avrebbe certamente avuto tutto l'interesse di mantenere, per cui tutto ciò che si sviluppa intorno a questa vicenda, a questa lotta che Alfredo sta portando avanti, certamente può solo giovare, non penso che in nessun modo possa contribuire a un esito sfavorevole, per cui assolutamente penso che abbia un senso, che corrisponda a una logica e speriamo che possa avere poi anche un'efficacia. Io personalmente, e penso al pari di tutti e tutte coloro che si sentono coinvolti da questa discussione, da questo dibattito, nonché dalla stessa iniziativa di Alfredo, penso che non ci siamo limitati in alcun modo nel dare il nostro contributo a sollevare l'attenzione sul problema e sulla vicenda in particolare. Bene, come ultima cosa, quello che si può sapere per della condizione di Alfredo attuale. Alfredo attualmente è al 36esimo giorno di sciopero della fame e ha perso più di 24 kg. C'è una letteratura scientifica a cui possiamo guardare per capire quanto questo percorso di lotta di Alfredo può creare anche come conseguenze negative da un punto di vista del fisico. È certamente stanco, come sono tutte le persone che si trovano a protrarre così nel tempo lo sciopero della fame, chiaramente non esce più neanche all'aria, sempre che di aria si possa parlare, per quel cubicolo in cui possono uscire detenuti al 41 bis, nell'area di socialità, nella sezioncina di Alfredo, per cui sicuramente non esce più neanche questo dalla cella. Certamente un grande freddo nelle ossa, un grande freddo, perché è un altro dei sintomi che conseguono. Per il resto, quando l'ho sentito mercoledì, l'ho trovato comunque assolutamente determinato nelle proprie ragioni, coerente e orientato verso il suo obiettivo. Chiaramente ritiene Alfredo che tutto questo possa essere una vendetta, un monito per gli altri, cioè, ma come immagino, come una lettura che tutti possiamo fornire a questa iniziativa ministeriale, e diciamo, è desideroso di dimostrare che non intende assolutamente piegarsi né accettarla in alcun modo, quantomeno se non battendosi contro. E la dottoressa riesce a vederlo o le complicazioni si mantengono? Per la dottoressa che entrava per verificare le condizioni fisiche. Allora, no, la dottoressa ieri è entrata, diciamo, le difficoltà sono più che altro legate ai giorni, agli orari in cui a Bancali è consentito l'accesso dei medici esterni. Per cui soprattutto quella è stata la limitazione, e poi in un giorno in cui non ha avuto la possibilità di accedere alla cartella clinica. E comunque ieri è entrata, è riuscita a visitarlo, chiaramente anche l'attenzione che c'è stata da parte del garante, nonché di questi articoli che comunque nei giorni scorsi, nelle scorse settimane hanno diffuso la notizia di Alfredo e alzato sostanzialmente la soglia di interesse, fa sì che anche l'istituzione penitenziaria tutto sommato mantenga un livello di quantomeno garanzia formale, applicazione formale dei diritti in campo medico-sanitario. Pertanto entra, può accedere, può visitarlo, può incontrarlo, può parlarci, sempre alla presenza di terze persone, perché chiaramente sempre un soggetto in 41 bis, per cui anche il medico di fiducia non ha la possibilità di svolgere una visita senza che ci sia qualcuno al cospetto che guardi, osservi e monitori quello che sta avvenendo. Va bene, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e la tua chiarezza. E ci risentiremo presto. Grazie da parte Senz'altro, di tutti. Io ringrazio voi e vi auguro una buona iniziativa. Ecco, L'impressione che si ha è che gran parte dei presenti in questo momento siano perfettamente consapevoli di quello che stiamo parlando. Una delle punti che Alfredo ha posto e su cui secondo me la prima battaglia l'ha vinta è quella di squarciare un velo di silenzio su questa cosa anche tra chi non era perfettamente consapevole di quello che può succedere nelle patrie galere in alcune condizioni particolari. Almeno ha permesso che questa cosa uscisse da dei circuiti stretti. Noi abbiamo fatto come centro un piccolo volantino distribuendolo alle persone che vengono nelle attività normali in cui che è attaccato fuori, in cui sono indicati quelli che sono i dispositivi di una persona reclusa alla 41 bis, e va detto che la cosa ha suscitato interesse perché ha superato quello che è la sigla, il nome che delle volte uno ha sentito e ha letto e che digerisce facilmente. Nello specifico ora quello che possiamo dire è che di quello che succede a lui in questa condizione qua, in quella in cui si trova, noi possiamo sapere solo il numero di chili che ha perso fino ad ora, e lui di quello che succede qui non sa nulla. Quindi diciamo questo è un primo pezzo che può servire per allargare questa battaglia, questa campagna, e per in qualche modo chiarire e specificare quello che è la funzione dell'istituzione carceraria nel suo generale. Inviteremmo sempre il coraggiare Margherita Pelazza. Pensavate di fare diverso, dai, che ci parla un po' di questo avvocato, anche lei nota. Eccomi. Allora, io posso parlare più che in teoria un po' di quello che è la concretezza del 41 bis per quel che mi riguarda, nello specifico Milano, e come viene applicato a Opera, perché poi carcere che vai e comunque differenze minime, ma ci sono. La prima cosa che invece questa è a livello nazionale e che è la caratteristica del 41 bis, che vabbè, lo saprete, però lo ripeto perché è di fatto è l'istituzione di un tribunale speciale ad hoc per il 41 bis, mentre per tutte le questioni che riguardano il tribunale di sorveglianza c'è la competenza del tribunale che è competente per il carcere dove è ristretta la persona, per il 41 bis la competenza per tutti è il tribunale di Roma, che quindi è l'unico che può decidere sui reclami contro il 41 bis. Non c'è evidentemente una possibilità di differenziazione del pensiero, solo Roma decide per tutti i 41 bis d'Italia. Quello che diceva Flavio, che dice per Alfredo sono passati più di 6 mesi, è purtroppo per lui, ci sono voluti 6 mesi, ma quella che è le tempistiche sono anche molto peggiori, perché per un rinnovo di 41 arrivato in settembre 2021 il reclamo è stato discusso a fine ottobre 2022, quindi dopo più di un anno. Poi tanto vengono respinti, però in teoria quell'anno lì poteva essere, in caso di accoglimento, passato diversamente. Quella che è la realtà del 41 bis di fatto è l'annientamento dell'essere umano, perché ti tolgono tutto. Sia dal punto di vista affettivo, c'è un colloquio al mese di un'ora, però non c'è possibilità di contatto, c'è il vetro, per cui le persone che sono detenute al 41 bis non hanno più una stretta di mano, un abbraccio, un contatto fisico con nessun affetto, che comunque è un affetto che deve essere un parente entro il terzo grado o un affine entro il terzo grado, quindi comunque estremamente limitata la possibilità di colloquio, appunto uno al mese con il vetro, registrati e sorvegliati, e già questo impedisce di fatto un minimo di mantenimento dell'affettività. Per il resto la quotidianità è scandita dalla impossibilità di scelta di nulla, nel senso che ci sono si può fare la socialità e l'aria con 4 persone che non vengono ovviamente scelte dalle persone ristrette, ma dal direttore che in base a incompatibilità e compatibilità tra i singoli soggetti decide i gruppi di socialità. Non c'è possibilità di contatto, pena sanzioni disciplinari, di comunicazione con chi è negli altri gruppi e quindi è difficile. Questo ad oltranza, finché il direttore o chi per esso decide che ci possono essere dei cambi. Un'altra cosa che sembra una stupidaggine, ma non è. Nel 2017 il DAP ha emanato una circolare che uniformava il trattamento del 41 bis a livello nazionale, e questo ha portato poi di fatto però una serie di interpretazioni, per cui in quella circolare si dice che ci sono 2 ore all'aperto a disposizione di ogni detenuto, e diverse direzioni hanno ritenuto che quelle 2 ore fossero da scegliere o aria o socialità, e quindi che il tempo da trascorrere fuori dalla cella fosse di 2 ore, mentre in realtà è previsto che non possano essere meno di 2 le ore trascorse all'aria più una che deve essere di socialità, perché le finalità sono diverse: una è la salute in teoria e l'altra è la socialità, quindi la socializzazione. Però diverse direzioni, anche la prima è Opera, questa cosa non l'ha, ha ritenuto che fossero 2 ore fuori dalla cella, e quindi ci si trova poi nella surreale situazione che ogni detenuto doveva fare reclamo, e man mano che il magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo, il singolo poteva fare 2 ore d'aria e una di socialità. E quindi c'erano gruppi dove evidentemente le persone, uno poteva farne 3, l'altro poteva farne 2, e anche qua i tempi sono per alcuni eterni. Reclami fatti nel 2020, discussi adesso, nel 2022, per poi vederti riconoscere un diritto che era evidente. Però intanto sei stato 2 anni dove potevi solo fare 2 ore fuori dalla cella. E tutto il resto è conseguenziale, nel senso che non puoi tenere i libri in cella, se non un 3 o 4, non puoi ricevere libri, non puoi ricevere scritti, non puoi ricevere opuscoli e riviste. E questo vuol dire, la Corte Costituzionale ha detto che è legittima questa cosa, purché il detenuto possa acquistare liberamente tramite l'impresa esterna qualunque libro o rivista che sia in commercio, diciamo nelle librerie, però non puoi comprare l'opuscolo distribuito. E questo però, prima cosa, è una spesa, perché non tutti possono permettersi sia di spendere molto in libri, sia c'è uno specifico budget che possono ricevere le persone detenute al 41 bis, e bisogna decidere dove investire anche i soldi. E comunque c'è sempre il discorso che poi la direzione può anche vietartelo. Poi il reclamo magari si vince, è successo che una direzione del carcere abbia ritenuto che il libro che la persona detenuta voleva acquistare non era adatto, visto gli argomenti trattati. Non era adatto, quindi non te lo faccio prendere, quindi faccio il reclamo, il magistrato lo respinge, devo andare davanti al tribunale e passano di nuovo altri 9 mesi, dove poi leggo il libro, ma nel frattempo sono passati 9 mesi per una cosa che era un mio sacrosanto diritto avere in 2 settimane. E di questo aspetto rimane l'ulteriore problema, che è quello della censura. Sono tutti sottoposti a censura, e la censura prevede che se ci sono scritti o disegni o fotografie che possano trasmettere messaggi che potrebbero essere un pericolo per l'ordine e per la sicurezza, la lettera viene trattenuta e mandata al magistrato di sorveglianza. Ma cosa rappresenti un pericolo o un messaggio che non è chiaro, un messaggio equivoco? Lo decide la direzione del carcere, per cui anche qui l'arbitro è assoluto, e si arriva a una situazione che è assolutamente assurda, nel senso che quella che è la prassi, per esempio qua a Milano, se il carcere trattiene una lettera, una cartolina, e il magistrato di sorveglianza accoglie questo trattenimento e quindi lo rende definitivo, la difesa non può vedere di cosa si tratta, può solamente leggere il provvedimento del magistrato di sorveglianza, e quindi è impossibile argomentare una difesa, perché se io non so cosa mi hai trattenuto e tu mi dici solo che è una missiva che contiene dai contenuti criptici e ambigui, che potrebbe rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza, io cosa ti dico? Non so chi me l'ha mandata, non so cos'è. Non... E quindi la difesa non c'è di fatto, cioè sei formalmente, hai dei diritti che poi di fatto però non hanno alcuna utilità. E si arriva a trattenere tutto in questo modo, a eliminare ogni possibilità di comunicazione con l'esterno, sia in entrata che in uscita. E per cui chi è dentro, in questo caso io parlo di una persona che è per reati politici, è completamente tagliata fuori. Non ha contatti con nessuno, non può avere contatti con nessuno, però il 41 bis continua di fatto a essere rinnovato di 2 anni in 2 anni, a fronte di un silenzio totale con l'esterno, perché non ci sono comunicazioni, non c'è nulla fuori. E le persone lì sono chiuse tra 4 mura con 2 ore di aria e una di socialità e null'altro. Non c'è altro modo di avere notizie dall'esterno. Si può acquistare solo un giornale, vedere i canali televisivi che sono autorizzati dalla famosa circolare. Per cui sei messo in condizione di sapere solamente quello che ti passa l'autorità e non hai modo di confrontarti con nessuno. Sei assolutamente annientato, annullato, perché non c'è possibilità. E questo da chi 15, chi 17 anni. Eppure il ministero e qui il tribunale di sorveglianza, che poi respinge tutti i reclami, dice che c'è questa pericolosità. E la pericolosità è dovuta al soggetto e al fatto che possa essere in comunicazione con l'associazione che deve esserci all'esterno, ma che deve essere esistente, che deve essere operativa, ed è evidente che in questi casi non c'è. Ma quello che è spaventoso dal mio punto di vista è quello che si legge nei provvedimenti di applicazione o di rinnovo, dove le cose che vengono messe in rilievo sono le manifestazioni di solidarietà, quindi il ruolo che hanno i detenuti, il fronte carcerario. Ci sono state manifestazioni all'Aquila, di qua e di là, contro il 41 bis. È stata mandata una rivista che la persona mai potrà ricevere, perché evidentemente è stata trattenuta. Però qualunque iniziativa che sia effettivamente di solidarietà con chi è ristretto lì viene vista come un potenziale pericolo e un potenziale collegamento. Quindi addirittura si arriva a scrivere che non si può escludere che, vista la situazione di crisi, vista la mancanza di lavoro e di malessere, questo non porti a delle situazioni un pochino più esplosive, e quindi teniamoli lì, che non si sa mai. Cioè, il senso è non farli uscire. Cioè, il pericolo loro è la loro persona, non è quello che c'è fuori, quello che potrebbero far fare a qualcuno fuori. È proprio una punizione e anche un esempio, perché lì si va a finire se ci si oppone in un certo modo alla situazione. È questo il messaggio. Se arriva lì, non fatelo. Dopodiché le cose potrebbero essere mille da dire, come sia un po' la battaglia contro i mulini a vento, perché contro tutte queste cose ovviamente fa il ricorso, fa il reclamo, fa il ricorso in Cassazione, ma non c'è la sicurezza di poter dire: guarda che poi abbiamo ragione. Abbiamo visto per questa cosa assurda, per esempio, dei reclami, c'è proprio questa follia per cui la persona detenuta, adesso è cambiato, ma fino a prima dell'estate ti trattenevano una lettera e ti dicevano: ti comunichiamo il trattenimento definitivo, punto, hai 10 giorni per fare reclamo, ma non puoi vedere neanche il provvedimento del magistrato su quale dovrebbe esserci scritto in teoria, perché te lo trattengono. E quindi è un'evidente violazione del diritto di difesa. Io impugno tutto a sto punto, perché se non so cosa mi hai trattenuto, per non sbagliare io faccio il reclamo. E il tribunale di sorveglianza ovviamente dice che basta che la persona sia informata del trattenimento, non c'è bisogno di vedere quello che c'è scritto. Si fa ricorso in Cassazione e si ottengono risultati: un caso è stato dichiarato inammissibile, il ricorso, in un altro rigettato, in un altro accolto, e il motivo poi era sempre quello. Per cui è proprio un andare un po' per tentativi e qualche volta qualcuno che ragiona forse c'è, ma nella maggior parte dei casi la chiusura è completa e totale, per cui c'è un ulteriore paradosso, sempre al 41 bis, nella censura c'è anche quella sulla stampa, per cui se ci sono articoli che la direzione del carcere ritiene che non siano idonei perché trattano argomenti che potrebbero arrivare a portare un pericolo per la sicurezza dell'istituto, te li censura o non ti dà proprio il giornale che tu hai pagato, tra l'altro, comunque, oppure se sono gentili ti tagliano l'articolo e ti arriva il giornale bucato, con questa ulteriore assurdità per cui tu non ricevi il giornale, sai esattamente l'articolo, la pagina che ti viene trattenuta, chiedi di vedere il fascicolo per capire perché quell'articolo lì non poteva leggerlo il tuo assistito e non puoi vederlo. Non puoi vederlo perché non c'è il diritto di visione della missiva trattenuta, quindi devi andare in Sorbani, perdere 3 ore, trovare il libro, il giornale di 3 mesi prima, far la fotocopia e andare a dire guardate che non c'entra niente con la storia personale della tal persona, oppure contestare in altro modo, però è proprio renderti impossibile o comunque difficoltoso qualunque tipo di difesa, e anche una eliminazione, un cercare di togliere la tua soggettività e la tua storia, perché se a chi è dentro, non per reati legati alla mafia, non vengono consegnati gli articoli che parlano solo esclusivamente di questioni legate all'ndrangheta piuttosto che alla mafia in Sicilia, in Sardegna, al sud Italia, è evidente che mi stai solo dando fastidio, è un modo per fare un dispetto, perché non c'entra niente con me, con la mia storia e col mio interesse. Quindi è un lento e continuo affaticare sotto tutti i profili possibili. Questa è di fatto la quotidianità. Con assurdità, anche l'avvocato, se va a colloquio al 41 bis, non può andare con una penna scura, deve avere la BIC trasparente. Entrare al colloquio solo eventualmente con un fascicoletto vuoto, ma senza zaino, addirittura una volta senza sciarpa mi avevano chiesto, poi era per la mia sicurezza, quindi io ero sicura lo stesso, sono entrata con la sciarpa, ma però il livello è questo, la penna deve essere trasparente, che non hai nascosto dentro niente, perché il difensore può fare il colloquio senza il vetro, quindi potenzialmente, evidentemente, il dubbio è sempre che ci sia un possibile pericolo, che è gratificante oltretutto dal punto di vista, però ecco, questa è la realtà quotidiana, è l'impossibilità di avere una qualunque finestra sul mondo, per cui l'avvocato diventa la persona che frequenti di più, perché poi sono tutti spostati in carcere lontanissimi, un'ora al mese, non sempre facile farlo, dopo 2 anni di Covid gli spostamenti sono ancora più difficili, e non ci riescono, però lo scopo è proprio quello di isolare, annientare, e far passare ogni voglia di pensare, di resistere, ecco questo. Aggiungerei che una percentuale non trascurabile di detenuti al 41 bis non solo non sono definitivi, ma non hanno neanche il primo grado di giudizio. Cioè è una disposizione che si pone a priori, al di là di quello che è l'iter. Ora Pippo, Giuseppe Pelazza. Dunque, tante cose sono state dette, per cui io devo rielaborare la mia scaletta mentale. Una prima cosa che mi viene in mente è comunque che siamo qui in tanti che impariamo tante cose, sappiamo tante cose. Nello stesso tempo, secondo me, dobbiamo avere la capacità di comprendere, non solo di sapere, e in questo senso non voglio cadere in un pensiero magico, ma però pensare che in questo momento Cospito è nella sua cella con 24 kg in meno del suo peso normale e noi siamo qui con lui. Ecco, questo secondo me è importante perché ci sia una conoscenza concreta e un vivere insieme anche con lui e con tutti gli altri che sono nel 41 bis, che questo nefando, disgustoso strumento di tortura. Ecco, io poi ho preparato, tanto per partire un po' da lontano, un riferimento a quello che è l'antesignano del 41 bis, cioè l'articolo 90 della legge penitenziaria del 1975. L'articolo 90 non fa altro che dire: quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e la giustizia ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari per un periodo determinato strettamente necessario delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Ecco bene, quindi c'è un riferimento al tempo strettamente necessario. E qui noi sappiamo però che le cose dette, le cose scritte hanno un senso e un significato, ma quello che conta poi è la pratica. E noi abbiamo avuto, dopo l'articolo 90, una costruzione di fatto extra e contra ordine, ma cioè al di fuori di ogni legalità, la costruzione di un circuito addirittura, di un circuito carcerario, veniva chiamato ai tempi, se non sbaglio, il circuito dei camosci, delle carceri speciali. E come viene costruito questo circuito dei camosci? Con un decreto interministeriale del 1977 che attribuisce al generale Dalla Chiesa il compito di garantire la sicurezza esterna, ma anche interna, con possibilità di entrare e uscire dalle carceri, e sulla base poi della creazione di questo circuito dei camosci, all'interno degli istituti penitenziari che sono, vanno da Cuneo, Fossombrone, Trani, l'isola di Favignana, Pianosa in parte, l'Asinara e via di seguito, o sezioni particolari di carceri ordinarie, c'è una applicazione in via sempre ministeriale di decreti che applicano l'articolo 90. Ma comunque vediamo la concretezza del potere, delle storie del potere. Nel 77 viene attribuito questo al generale Dalla Chiesa, ma ci si dimentica che il generale Dalla Chiesa nel 1974 era stato il responsabile della strage di Alessandria. A Alessandria ci fu un tentativo di rivolta di 3 detenuti che finì in un massacro e dei detenuti e degli ostaggi. E fa un certo effetto vedere che finalmente anche sulla stampa, la stampa della Fiat, che non è più della Fiat, no, sì, è ancora della Fiat, di Torino, nel 2014 finalmente esce un articolo che dice: parla Don Maurilio Guasco, l'ultimo mediatore, 40 anni dopo la rivolta, gli errori e il cinismo di un'operazione costata 7 morti. E c'è qui un'intervista molto interessante, che io non ve la sto certo a leggere tutta, ma parla di questi blitz, parla di come lui fece una testimonianza molto articolata e precisa di quello che era successo, e l'inchiesta era andata a finire a Genova perché c'era il rischio di coinvolgimento di magistrati torinesi o alessandrini, comunque piemontesi, e finisce al procuratore generale Cocco, quello che è poi famoso perché venne ucciso dalle Brigate Rosse, il primo ucciso dalle Brigate Rosse, il quale fece stralciare la mia testimonianza in quanto scrisse, non virgolette, nonostante sia molto ben circostanziata, è chiaramente inficiata da animosità verso le forze dell'ordine. Allora il tutto viene rimandato ad Alessandria e questa inchiesta, non ci fu mai. E dice questo reverendo: andai allora dal procuratore Buzio a dirgli: lei deve riaprire l'inchiesta, è obbligato a farlo. Lui mi guarda e rispose: padre, lei è coraggioso, ma resta un inguaribile ingenuo. Questo è quello che è successo ad Alessandria. Ma dalla Chiesa, responsabile dell'ordine e della sicurezza, ricordiamo poi tutti, via Fracchia nel 28 marzo 1980, con Riccardo Dura, Anna Cecilia Ludman, se ricordo male, gli altri due adesso mi sfuggono i nomi, uccisi probabilmente a sangue freddo in via Fracchia. Ebbene, la concretezza del potere è questa. La concretezza del potere è questa qua. La concretezza del potere è giusto rispondere col massimo di diffusione di notizie su queste cose, di come vanno nel concreto. Noi all'epoca, come gruppo di avvocati, erano altri tempi, era durissima la situazione dell'articolo 90, perché in sintesi c'era vietata la corrispondenza tra carceri, era un carcere e l'altro, l'aria era ridotta a un'ora al giorno, impedita la partecipazione anche ai riti religiosi, i detenuti sono privati degli oggetti personali, al femminile di Voghera era violata ogni forma di civile riservatezza dal momento che vi sono telecamere persino sotto le docce, all'atto dell'ingresso nei carceri speciali di detenuti provenienti da altre carceri sono imposte ispezioni anali e vaginali, allo speciale maschile di Milano San Vittore tali ispezioni anali vengono ripetute numerose volte nel corso della giornata ad ogni movimento del detenuto, doccia cella, colloquio difensore attraverso i vetri, cella, colloquio parenti, cella. E ciò è presumibile che avvenga anche in altri carceri. C'erano poi i braccetti morti, cosiddetti, dei quali uno era a Torino, e io ero andato a trovare Semeria, se ricordo giusto, a Torino. C'erano a Torino Foggia, Ariano Irpino e Ascoli Piceno, mi sembra. E lì c'era il divieto addirittura di ogni colloquio con i parenti. Divieto assoluto di inoltrare e ricevere corrispondenza, isolamento totale 24 ore su 24 in cella singola con spioncino chiuso a chiave, 4 ore d'aria la settimana, effettuate da soli in un passeggio ricoperto da grate che veniva impedita in questo modo la vista del cielo, divieto di ricevere o tenere giornali, consentito detenere esclusivamente una matita fornita dal carcere e un ridottissimo numero di fogli protocollo. Ecco, noi facemmo una denuncia, all'epoca c'era la commissione inquirente e il tribunale dei ministri, nei confronti di Darida, che all'epoca era il ministro di Grazia e Giustizia. E ne ho qui una copia, era il 21 febbraio 83 e un certo numero, 7-8 avvocati, la mandammo. Qui ovviamente finì archiviata, anche se poi venne ripresa dai radicali, che sostanzialmente l'avevamo mandata anche ai radicali, secondo me la copiarono, ma anche lì con nessun esito. Ci fu però una legge del contrappasso, perché Darida, poco tempo dopo, nell'88 se ricordo giusto, venne coinvolto nell'inchiesta sulle carceri d'oro, e qui è paradossale che nel circolare ministeriale 31 ottobre 1984, quella che ammorbidisce un poco l'articolo, i decreti applicativi dell'articolo 90, si dice che deve essere ridotto il numero dei pacchi alimentari che arrivano ai detenuti. Questo per risparmiare, per evitare lo spreco, perché sennò si spreca tutto il vitto del carcere. Allora c'è questo risparmio e poi c'è un coinvolgimento di Darida nell'inchiesta sulle carceri d'oro. Bisogna essere garantisti, però non venne neppure poi indagato, ci fu soltanto un suo coinvolgimento, mentre invece finì in carcere qualche tempo dopo per mazzette per quanto riguarda la costruzione della metropolitana di Roma. E secondo me conviene fare le denunce proprio per questo aspetto del contrappasso. Ricordo che ci fu anche quel bel tipo di Pietro Longo, che era segretario dei socialdemocratici, che scrisse a sostegno delle torture di Padova, dicendo che ben avevano fatto i torturatori di Padova. Io ricordo che mi incavolai, ero in vacanza a Spoleto, feci un telegramma di denuncia alla Procura di Roma per questa cosa qui. Ovviamente anche questo non sortì alcun effetto, però Longo fu poi coinvolto anche lui in Mani Pulite e addirittura finì sotto processo. Quindi proprio mirando a questo, a che poi questi soggetti vengano coinvolti da altre inchieste, sono per la denuncia facile, che è una sorta di malocchio che gli si getta, sì. E viva il malocchio. Ma comunque, ritornando a quei tempi, prima Lina ha ricordato ad esempio Voghera, allora su questo mi viene da dire che all'epoca c'era ancora una figura di intellettuali che adesso sostanzialmente non ci sono quasi più. C'era ad esempio Giorgio Bocca, che sull'Espresso aveva la sua rubrica L'Anti-Italiano e scrisse una pagina intera intitolata Notizie da Vogher Horror. Il carcere di Voghera è degno del nazismo, degno dello stalinismo, degno di una società, di una filosofia totalitaria e non della nostra Repubblica e non della sua storia. I ministri della giustizia e i direttori generali non sono tenuti a conoscere tutta la storia patria, dovrebbero però avere una qualche notizia della Costituzione del paese in cui vivono, dello Stato di cui sono servitori e funzionari. E allora si rileggano la Costituzione, si rileggano il commento di Piero Calamandrei e dei suoi articoli che parlano a noi, le voci familiari, auguste, venerande del nostro risorgimento, il pacifismo di Mazzini, vabbè, lo spirito democratico di Garibaldi, la tolleranza di Cavour, la giustizia pietosa di Beccaria. Poi si rivedano, per non darsi troppo disturbo, il servizio televisivo. E così poi si diffonde nella descrizione di Vogher Horror. E su Panorama, contestualmente, siamo sempre nel marzo e aprile 83, c'è Stefano Rodotà, Dietro le sbarre, nessun diritto. Ma in che cosa consiste in concreto il trattamento dell'articolo 90? Eccetera, e lo descrive. Ma c'era anche una capacità di essere presenti che secondo me oggi sta rinascendo, perché io vedo che oggi siamo davvero in tanti, sono usciti anche degli articoli da soggetti impensabili. Ad esempio su Libero, se non ricordo male, è uscito un articolo ben fatto sulla storia dello sciopero di Cospito e del 41 bis. Quindi vuol dire che c'è una capacità anche nostra di essere presenti. Perché io ricordo che comunque anche all'epoca, quando l'articolo 90, i decreti applicativi dovevano essere prorogati al finire dell'84, e qui si fece una lettera al manifesto in cui si diceva contro la proroga dell'articolo 90, ma ci saranno 70-80 firme, ne leggo solo alcuni: Corso Bovio, che era l'avvocato del Corriere della Sera, Annibale Carenzo, giornalista, Camilla Cederna, Luciano Lanza, direttore, e l'intera redazione di Piazza degli Affari, quotidiano economico, c'era Franca Rame, Dario Fo, ovviamente Gian Maria Volontè, c'era l'esecutivo di Magistratura Democratica, sezione milanese, pensate un po' oggi cos'è Magistratura Democratica, Emilio Molinari, Anna Maria Rodari, Rossana Rossanda, Michelangelo Notarianni, Renata Pisu, Enzo Tortora, Francesca Scopelliti, Giuseppe Nicotri e così via. E allora, secondo me, dobbiamo procedere su questa strada della diffusione delle notizie e con la consapevolezza, ad esempio, che la magistratura comunque è territorio ostile, secondo me, è territorio ostile, tant'è vero che quando ci sono i primi sentori di una volontà di ammorbidire l'articolo 90, bene, ci fu quella che viene definita, credo dalla Rossanda, la loggia dei 36 magistrati che erano stati fra all'avanguardia della repressione, mandano una lettera con preghiera che rimanga riservata al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro di Grazia e Giustizia, agli interni, al Capo della Polizia, al Comandante dell'Arma dei Carabinieri, al Direttore del Servizio di Informazioni, che se la prendono con questa tendenza alla smobilitazione, contro l'eccessivo abbattimento di taluni livelli di sicurezza raggiunti in passato all'interno delle cosiddette carceri speciali, se la prendono con i progetti di legge che avrebbero ridotto la carcerazione preventiva e così via. E, la cosa quindi è in questi termini: non avere fiducia nella magistratura, anche se poi delle mosche bianche esistono lì, esistevano al tempo. Io ricordo, ad esempio, c'è una missiva dell'ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Milano, all'epoca molti di noi lo conoscono, Maisto era presidente, che finita l'analisi di quella che era l'applicazione dell'articolo 90 al femminile di San Vittore, perché lì erano arrivate per il processo ragazze accusate di far parte di Rosso, Brigate Comuniste e delle FCC, le formazioni comuniste combattenti, c'era una sospensione totale delle regole del trattamento. Allora Maisto scrive: questo magistrato ha ritenuto doveroso formulare i rilievi che precedono, come ritiene suo dovere fare presente, che nel caso che sia richiesto di provvedimenti di propria competenza prenderà in considerazione la possibilità di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo per intervenire in esatta conformità alla legge penitenziaria. Dopodiché sarà l'amministrazione a valutare se eseguire i provvedimenti emessi da questo magistrato o assumersi la responsabilità di omettere un atto dovuto. Così come ci fu la Corte d'Assise di Massa che nel processare mio amico, da tutti conosciuto, Gabriele Fuga, perché era la Croce Nera anarchica, era CIO presso Gabriele Fuga, si ritrova accusato di un sacco di delitti che riguardavano degli scritti sul carcere. La sentenza, che lo assolve con formula ampia, dice: i dati che ne emergono sono per la più parte tali da lasciare quantomeno perplessi circa l'idoneità delle strutture carcerarie e l'organizzazione delle medesime a consentire che si realizzi quanto dispone il terzo comma dell'articolo 27 circa la consistenza e la finalità delle pene e da ingenerare ragionevoli dubbi circa la costituzionalità dell'articolo 90 della legge penitenziaria. In altri termini, nell'articolo si vuole dire che con le limitazioni arbitrarie ed illegittime che in certi carceri vengono adottate delle libertà di certe categorie di detenuti, per le quali anche valgono le garanzie della Costituzione e della legge, con la violazione dei più elementari diritti sanciti anche per i detenuti per fatti politici, è fatale che a scadenza più o meno lunga si pervenga ad un avvilimento, ad una mortificazione, ad un'alienazione, ad uno spossessamento della personalità fisiopsichica di chi è detenuto in siffatte condizioni, atte a condurne ad un pressoché totale e sostanziale annichilimento. Oggi è difficile trovare dei magistrati che scrivano queste cose, però il percorso è questo: bisogna insistere, battere, si dice no, batti il ferro finché è caldo, battere il ferro anche se è freddo, anche se è freddo, e bisogna continuare. Io vedo poi che, perché voglio essere seguire l'orientamento espresso da Tommaso di ridurre i tempi, di individuare nella differenziazione all'interno del sistema carcerario quella che è la caratteristica della penalità. La caratteristica della penalità è quella che ci sono questi vasi comunicanti dal carcere più leggero al carcere più terribile, e questo con funzioni sia di annientamento di chi finisce nel carcere più duro, ma anche di spauracchio, di timore, e col meccanismo quindi della tortura per chi è nella situazione di annichilimento, e col meccanismo del premio, che è un'altra faccia della tortura: guarda che se tu ti comporti bene io ti declassifico, dal 41 bis passi ad alta sicurezza, poi magari dall'alta sicurezza finisci in una casa circondariale di una cittadina di provincia, e lì forse potrai avere il trattamento penitenziario adeguato, la possibilità di accedere alle misure alternative, ammesso che tu le voglia chiedere, e così via. Quindi questa è la caratteristica che non nasce oggi, ma che è tipica dell'ordinamento penitenziario dei paesi della cosiddetta democrazia occidentale, perché fra l'altro i sistemi di alta sicurezza hanno poi riguardato la Spagna, dove c'erano state le lotte contro, si chiamava credo il FIES, le celle di massima sicurezza, ha riguardato la Grecia, non parliamo della Germania, che era stata il battistrada nella detenzione degli esponenti della RAF e con la morte di Holger Mainz, se ricordo male, sì, di Holger Mainz e così via, con anche qui i paradossi, mi ricordo, di magistrati che si scandalizzavano per tutta questa situazione e che poi felicemente sono andati a presiedere le corti d'assise che hanno comminato ergastoli su ergastoli nei processi politici milanesi degli anni Ottanta. Bene, io direi che ho contenuto i tempi e posso concludere così. Ok. Come archivio Moroni, anni fa abbiamo fatto una raccolta di materiali sul pentitismo e la dissociazione in Italia, in cui c'è una sezione dedicata alle carceri speciali dell'articolo 90. Credevamo di averne raccolti abbastanza, ma questi che tu hai mostrato oggi ci mancano. Quindi intanto ti chiedo se li puoi far avere, così integriamo nella tua sorprendente capacità di proporre materiali. L'articolo di... Allora, noi avevamo fatto... Allora, qua faccio un atto di... Avevamo fatto delle stampe, degli articoli dell'Avvenire, di Libero, della Stampa, della Repubblica e del Manifesto, un pochino grandi, che avevamo pensato di attaccarle fuori. Poi temevamo che qualcuno pensasse che quello fosse il nostro riferimento e allora le abbiamo tenute nel sacchetto. Però, visto che Pippo ne ha parlato, effettivamente vale, le metto qua. Se qualcuno se li vuole rileggere, poi li trova. Frank. Inevitabile che tocchi a te. Non riesci neanche a chiamarmi? Siamo con questa discussione che parte dalla vicenda Cospito, che ha avuto assegnato il 41 bis da una signora che ha fatto il ministro della giustizia e la presidente della Corte Costituzionale, la signora Cartabia, che ha una fama molto immeritata di garantista, perché lei è una persona che predica bene e razzola male. Lei in tutti gli interventi pubblici che fa parla di meno carcere, che bisogna assolutamente sostituire il carcere con altre sanzioni, e poi in realtà, come abbiamo visto con il caso Cospito, lei si comporta esattamente, fa il contrario di quello che dice. Del resto, questa signora è, insieme al Presidente della Repubblica Mattarella, quella che ha architettato l'operazione Ombre Rosse, con cui lo Stato italiano chiede a quello francese di rimandare in Italia persone a 40 anni dai fatti per i quali sono stati condannati. Però fino a questo momento gli è andata male, perché è stata la magistratura francese a dire che proprio da un punto di vista tecnico-giuridico quelle richieste sono infondate, ed è stato presentato un ricorso alla Cassazione francese, che dovrebbe decidere nei prossimi mesi. E mi riferisco a quello che ha fatto la Cartabia come ministro della giustizia, perché quello che succede adesso serve a difendere due democrature. C'è la democratura del periodo della madre di tutte le emergenze, 40 ormai anche 50 anni fa, e c'è in sostanza la democratura dei nostri giorni, perché è stata ed è ancora in corso un'infinita emergenza italiana che ha prodotto questa Repubblica penale, che tra l'altro è molto carcerocentrica, nel senso che il carcere viene utilizzato sia per ottenere ammissione di responsabilità, confessione e accuse verso terzi, ma viene utilizzato, e questo vale soprattutto quando viene applicato il carcere duro, come deterrente, nel senso che viene e lì a non solo a contrastare, ma a reprimere in via preventiva le ribellioni sociali. Perché in questo momento noi abbiamo degli apparati antisovversione in questo paese che come struttura sono gli stessi di 40 anni fa. Sono molto estesi, elefantiaci, costano un sacco di soldi, è impossibile sapere quanto perché vige una sorta di segreto di Stato. E però in questo momento, ormai da tempo, per mancanza di materia prima, cioè la sovversione, questi apparati si occupano delle cose minime. A Milano, e non solo a Milano, credo, gli uffici Digos, che sono praticamente disoccupati, adesso vanno a casa a parlare con i genitori degli studenti liceali che fanno gli agitatori col megafono davanti alla scuola. Oppure intercettano la compagna Dana Lauriola mentre è nella sua camera da letto che parla col gatto. E la Digos fa l'annotazione, e vabbè, la Digos fa l'annotazione, non si capisce perché debba annotare in questo momento alle ore 16:40, mi pare, del 20 agosto del 2020, scrive la Digos, Dana Lauriola sta parlando col gatto. La cosa ancora peggiore, perché si pensa che i magistrati debbano essere un po' più, diciamo, usando una parola un po' strana, scafati dei poliziotti, avere un minimo di accortezza. No, invece allegano agli atti dell'inchiesta sul centro sociale a Scatasuna, allegano questa annotazione. La cosa divertente è che sulla base del pezzo che ho fatto sul mio blog, poi pubblicato anche sul Riformista, l'onorevole Giachetti ha presentato un'interrogazione parlamentare dicendo che trattasi di una vicenda tragicomica e chiedendo al ministro se è il caso di usare i poteri ispettivi. E questa interrogazione è stata presentata 15-20 giorni fa, non c'è stata risposta, e però nel frattempo, leggendo i giornali, ho appreso che il ministro Nordio è un noto gattaro, al punto da aver giurato sulla testa dei suoi due gatti che riformerà il codice penale. Ecco. Era riportato anche il dialogo con i gatti. Come? Il dialogo con i gatti era riportato. Scritto cosa si dicevano? Non ho capito, scusa. C'era scritto nel dialogo. Nell'intercettazione se c'era scritto cosa. No, no, vabbè. Era solo Dana che parlava, il gatto non parla. E quindi niente, lui non ha risposto. E però abbiamo visto, questa è una vicenda, vabbè, noi su cui possiamo anche, voglio dire, sorridere, però si tratta di un sorriso amaro, perché è veramente molto grave, oltre che essere assurdo. E bisogna pensare che questo ci induce a pensare sul modo in cui fanno le indagini. E poi voglio dire, non si può non ricordare quello che è successo con la perché anche lì c'era stato l'uso della custodia cautelare, prima carcere e poi domiciliari, dei ragazzi del comitato del Giambellino, oggetto di un'inchiesta dove la procura per prima scrive che non è a scopo di lucro l'occupazione delle case, però contesta il reato associativo, associazione per delinquere, e sono arrivate in primo grado delle condanne che arrivano fino a 5 anni e 4 mesi. E lì chiaramente diciamo che siamo in presenza di moniti alla ribellione sociale, sia quella in corso sia quella che potrebbe esserci, perché comunque bisogna ricordarsi che noi stiamo vivendo dei giorni in cui abbiamo una guerra che è quasi una terza guerra mondiale, e c'è una crisi economica devastante, con la perdita di migliaia di posti di lavoro che è stata accelerata già dalla vicenda Covid, e dove sono diminuiti i diritti delle persone, perché la gestione di questa emergenza pandemica ha praticamente ridotto ancora di più al lumicino la sanità di base e il Servizio Sanitario Nazionale. Per cui in una situazione del genere, ma questo lo dicono anche, loro si aspettano dei movimenti di piazza, delle ribellioni, e quindi loro agiscono in una sorta di, il potere agisce in una sorta di repressione preventiva. E quindi il problema è che non c'è da stare tranquilli, per quello che potrà succedere, anche perché rispetto alla ribellione sociale non c'è contraddizione, cioè politica e magistratura si fanno la guerra, ma su altri terreni, ma rispetto alla ribellione sociale, diciamo alla sovversione, diciamo che sono in pratica uniti nella lotta, e per cui non essendoci più questa contraddizione tra loro, chi si ribella praticamente viene massacrato, perché la magistratura lì fa gli interessi della politica, che deve mantenere lo status quo, deve mantenere questi rapporti di forza. Sono stato nei tempi. Aspetta, sì, ti facciamo partire adesso. Allora, no, volevo dire questa cosa. Frank ha citato prima l'inchiesta Ombre Rosse. Vale ricordare la vicenda di Vincenzo Vecchi, condannato per devastazione e saccheggio per il 2001, Genova 2001, e la cui estradizione dalla Francia, rifiutata per due volte dai tribunali, estradizione non è la parola forse giusta, perché adesso c'è il mandato di arresto europeo e la terminologia mia è un po' vecchia, però comunque è stato rigettato due volte, tornato alla Corte europea che l'ha rimandata indietro e andrà in discussione il martedì, che è il 29. La Cassazione francese, esatto, sarà martedì. Se vuoi vieni qua, così che abbiamo la registrazione. Di Vecchi che dicono che l'interpretazione che ha dato la Corte di Giustizia europea è in contraddizione con la Costituzione francese, e quindi chiedono alla Cassazione di mandare gli atti alla Corte Costituzionale. Però vi dico subito, da quello che ho capito parlando con l'avvocato italiano Di Vecchi, che le prospettive non sono buone. Ecco, vi dico solo questo. Ecco, vabbè, comunque questo andava detto. Alfredo è a Bancali. Prima chi era Margherita parlava dell'ora d'aria, e di aria lì si tratta, non di sole, perché non c'è. E la celle sono sottoterra e non vedono niente, esatto. Allora, parlando qualcuno diceva perché dal 41 non possono andare in ospedale, invece possono andare in ospedale. A Milano, al San Paolo, c'è un reparto apposta. Allora, se Pino vuole venire, che ha esperienza, ci spiega un attimo come funziona sta faccenda. Ciao a tutti, allora vi dico un po' di questioni, magari non note a tutti, che però bisogna partire un po' nel tempo, nel senso che con il passaggio della sanità penitenziaria, che prima dipendeva dal Ministero di Grazia e Giustizia, con un decreto DPCM del 2008, è avvenuto questo passaggio dell'assistenza sanitaria dal Ministero di Grazia e Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. Ovviamente il Servizio Nazionale poi dopo è stato riformato, molte spettanze sono state date alle regioni e a loro volta poi dalla regione alle ASL. Quindi con questo passaggio che è avvenuto nel 2008 sono iniziate a, negli ospedali a costruire proprio veri e propri reparti, reparti tipo penitenziari, che all'apparenza, per chi andasse a San Paolo a prenotare una visita, oppure in ambulatorio, oppure in camera operatoria, oppure in sala parto, non si accorge di nulla. Vede solo un'unica parete verde, non c'è nessun cartello, ci sono qualche telecamere che molti non vedono, però nessuno si accorge di questa costruzione che è avvenuta nel 2004. Una costruzione avvenuta in tempi rapidi, perché c'era una necessità, per quanto si riguarda, di fare investimenti, si parte sempre poi a farli in modo veloce, però per quanto poi riguarda l'organizzazione, il personale, i servizi, poi quelli tardano a venire. Comunque è stato costruito questo reparto che prevedeva all'origine 15, adesso sono 20 posti letto per i detenuti, diciamo, ordinari, e due letti per 41 bis all'interno di questa sezione. Quindi dal 2004 il San Paolo è diventato polo di riferimento di tutte le strutture carcerarie di Milano, quindi San Vittore, Opera, Bollate, anche quello minorile, come si chiama, Beccaria, e anche tutti quei servizi afferenti anche ai vari CERT, che adesso si chiamano CERT, cioè quelli che si occupano più che altro di tossicodipendenze e devianze. Quindi il San Paolo è diventato riferimento di tutto questo. Ecco, quella legge contenuta di PCM prevedeva quindi il trasferimento del personale, delle strutture, delle opere, beni immobili, cioè tutto al Servizio Sanitario Nazionale, tralasciando solamente la parte della sicurezza che era poi demandata sempre al Ministero di Grazia e Giustizia come responsabilità, come anche per organizzare, diciamo, il trasporto, la sorveglianza, eccetera eccetera. Quindi non è che questo decreto del 2008 fosse stato il primo, cioè questo è un, diciamo, è stato un problema portato avanti già anche dai primi anni 70, ma che poi si arrivò a una stesura in un decreto legislativo del 1999, in cui erano contenuti i vari enunciamenti di principio, che erano quelli dell'assistenza sanitaria per tutti, nessuna distinzione fra il cittadino libero e il cittadino detenuto, prevedeva l'iscrizione al servizio sanitario del detenuto, come anche l'esenzione alla compartecipazione delle spese sanitarie, cioè l'esenzione per i detenuti stessi. Quindi questo era un primo, diciamo, decreto che dava degli orientamenti, diciamo, iniziali, che poi prevedevano dal 2000 proprio l'inizio del trasferimento delle competenze, per arrivare al 2008 con un decreto più ampio, più organico, più circostanziato su come dovevano essere queste modalità di trasferimento. Bene, tutto questo è avvenuto, però è rimasto, diciamo, bene o male sulla carta, perché non tutte le regioni hanno attivato questo percorso. L'attuazione delle medicine penitenziarie all'interno degli ospedali è a macchia di leopardo, quindi ci sono alcune regioni che non hanno nulla, piuttosto che altre, come la Lombardia, che è abbastanza avanti in questo. Per cui la Lombardia, e quindi di conseguenza il San Paolo, accetta anche detenuti provenienti anche da altre regioni, come nel caso di Totò, Riina e Provenzano, che dal carcere di Parma sono stati trasferiti all'interno della sezione 41 bis del San Paolo. Quindi questo è una realtà più o meno assodata nel tempo. Naturalmente rispetto a questo argomento c'è stata una nostra presa di posizione come USI, cioè sindacato che opera nella sanità e che è abbastanza diffuso qui in Lombardia, dove avevamo fatto anche degli esposti, anche delle assemblee pubbliche sul territorio, tipo mi ricordo nel 2011 avevamo fatto un'assemblea pubblica alla cooperativa Magolfa in Barona, perché appunto vedevamo in tutto questo, non tanto perché eravamo contrari in teoria al passaggio dell'assistenza sanitaria dal Ministero di Grazia e Giustizia al Servizio Sanitario Pubblico, anzi il contrario, vedevamo di buon occhio questo, però sapevamo che poi nella pratica non sarebbe stato così, perché se nella pratica dopo l'applicazione del Servizio Sanitario Nazionale del 78 ci è voluto ben poco poi per smantellarlo nella sostanza, perché già dopo una decina d'anni si parlava già di aziendalizzazione, di manager nella sanità e quindi una privatizzazione che iniziava a muoversi in grande stile. Quindi, perché vedevamo del pericolo? Perché come si fa ad assumere, cioè a costruire una sezione 41 bis sotto la sala parto, di fianco alla sala operatoria, alla sinistra un centro di ambulatori e un corridoio dove c'è l'accesso ai CUP, diciamo, ai centri di prenotazioni, ed è una zona dove passano al giorno in media più di 1000 persone. Quindi immaginate, quindi è un problema. Ci sono stati in passaggio attentati mafiosi per far capire che il 41 bis doveva essere eliminato, no? Se ricordate, ci sono stati vari attentati strani, però una preoccupazione di molti lavoratori c'era, come la preoccupazione di diritti sindacali compressi, perché per esempio il San Paolo è pienissimo di telecamere, abbiamo telecamere che dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo telecamere che dipendono dalla direzione universitaria, perché abbiamo anche l'universitaria, e poi abbiamo anche le telecamere che sono gestite direttamente dalla penitenziaria, che le cui immagini vanno a Roma e che noi non possiamo avere accesso. Come non possiamo avere accesso all'interno delle strutture? O meglio, non possono avere accesso le persone un po' scomode, oppure un po' non grate, di cui io sono uno di quelli in cui ai tempi facevo rappresentante lavoratori della sicurezza. Bene, avevo avuto una richiesta di lavoratori interni che volevano un'ispezione per verificare le condizioni di lavoro e questo è stato negato perché ero persona non gradita. Vabbè, giustificando dicendo potete benissimo mandare un altro RLS. Sapete benissimo che i rappresentanti dei lavoratori sono eletti proprio dai lavoratori, però c'è differenza fra varie sigle sindacali, quindi una sigla confederale che magari non dà problemi viene ammesso a fare, diciamo, le ispezioni, invece quelli di altre organizzazioni sindacali no. Quindi già questo è una compressione dei diritti sindacali, come anche quella, appunto, dicevo per prima, del controllo delle telecamere, che per esempio assommano soltanto per quanto riguarda il servizio sanitario 82 telecamere, poi ci sono tutte quelle del ministero e quelle dell'università, quindi è il posto più, diciamo, controllato d'Italia, diciamo, e questo è stato un po' anche la peculiarità di questo ospedale, che vive sempre un po' come un campo di sperimentazione delle varie forme di fare sanità, che già va avanti dagli anni Ottanta. Quindi noi contestavamo e avevamo fatto anche richieste di ripensamento alla Regione per modificare questi piani, perché nello stesso tempo noi dicevamo perché dei lavori come la palazzina AIDS e due piani di reparto di malattie infettive tardavano anni per essere realizzati, quando invece una struttura carceraria in 448 l'hanno messo su. E poi quindi il personale che poi viene a lavorare in queste strutture poi attualmente non è personale del servizio sanitario pubblico, perché è personale completamente in mano per il 98% delle cooperative. Quindi abbiamo infermieri, medici, psicologi, tecnici, che sono tutti o cooperative o contratti di collaborazione, co-co-co, oppure a gettone. Mentre la situazione, cioè del personale strutturato che dipende dal San Paolo, si riduce solo magari al coordinatore o ex caposala, come volete chiamarla voi, qualche altro assistente sociale, piuttosto che qualche psicologo, oppure il vecchio personale che è passato dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello sanitario, ma di nuove assunzioni non se ne parla, anche perché nei vari contratti che vengono approvati una quota sostanziosa, credo che sia intorno al 30%, è riservato all'assunzione di personale precario, quindi con le formule che dicevo prima, e così si va avanti. Però quello che preoccupa del decreto del 99, e che quindi questo l'abbiamo denunciato, è quello che dice, che vabbè, non sto a citarvi l'articolo, comunque il decreto, perché non leggo bene. Dove? Comunque è un decreto del 99, legislativo 230 del 99, che dice che in caso di necessità, di urgenza, il personale sanitario può essere assoggettato dal personale dell'amministrazione penitenziaria in casi specifici di urgenza. Quindi è come se noi, personale sanitario, medici, infermieri, ausiliari, OS, eccetera, fossero alle dipendenze di questa amministrazione e si trasformassero come potenziali secondini. Tutte queste sono state fatte, state denunciate. È un esempio pratico di questa attuazione, io credo, quindi è una mia interpretazione personale, è che abbiamo verificato quando c'è stato nel 2003 la morte di Dax e con conseguenza poi pestaggio avvenuto nel pronto soccorso del San Paolo, dove è stato preso militarmente in possesso della struttura senza che il personale potesse dire nulla. Anzi, sia medici, sia direttore responsabile, sia tutto il personale non ha potuto fare nulla. Ci sono stati interi reparti della celere dei carabinieri che hanno accerchiato il pronto soccorso dall'ingresso principale che andava verso la sala d'attesa e dall'altro corridoio che attraversava un reparto normale, perché era il DEA, quindi l'area di osservazione, dove marciavano militarmente per accerchiare quei pochi compagni che erano lì in sala d'attesa, che diciamo erano sconvolti dalla morte del compagno Dax, che è avvenuto nel marzo del 2003. E quindi anche in quell'occasione non si è potuto fare nulla, anche se sono state chieste interpellanze di chi era responsabile di quella situazione, se era stato il direttore sanitario oppure l'amministrazione, diciamo, delle forze dell'ordine, ma anche questo quindi è caduto nel nulla. Quindi questo è quello che sta succedendo. Però un tipico caso di cui, come poteva avvenire il trasferimento di un detenuto, era questo. Cioè nei primi tempi, perché nei primi tempi c'è stata una fase di ostentazione proprio visiva di questo potere che ti controlla e che ti reprima, perché addirittura dalle 7 del mattino iniziavano a girare gli elicotteri sulla struttura, iniziavano a girare poi dopo qualche ora i caroselli dei cellulari sempre intorno all'ospedale, Famagosta, eccetera, giravano continuamente, per poi arrivare, quando c'era il trasferimento del detenuto, con con uomini della penitenziaria, quelli più speciali, quelli vestiti in modo, come si chiamano, Robocop, di gomma, non so se erano loro o meno, comunque erano vestiti abbastanza diversamente da quelli secondini normali, quindi tutti piazzati sul tetto del CUP, che è una struttura a un piano, tutti con armati, mitra, e che naturalmente questo spaventava sia noi lavoratori sia chi veniva magari a prenotare. E quando poi c'era il trasferimento dalla struttura carceraria ai vari servizi, perché venivano da noi magari per fare le TAC, le risonanze, piuttosto che le PET in medicina nucleare, tutte queste cose qui. Ecco, ogni volta che c'era poi questo trasferimento interno, tutto si bloccava, quindi accessi degli ascensori, quindi automaticamente tutto veniva chiuso, tutte le varie stanze che si affacciavano sul percorso dalla medicina penitenziaria ai vari servizi erano bloccati, piantonati, e con un'ostentazione proprio voluta di questa roba qui, che però è durato poco, nel senso che è durato 4-5 volte come episodi, però forse perché o pagando era costoso, perché impiegare tutte queste forze per un trasferimento magari ha visto che non era molto conveniente, ma io credo che era solo per magari spaventare un po' la gente e il personale su questa questione qui. Quindi questo lo si vedeva, per poi passare adesso a trasferimenti quasi anonimi, nel senso che avvengono senza che nessuno ne sappia nulla. Magari i detenuti, quelli sottoposti a questo regime, hanno anche un altro nome, forse perché non farli individuare magari dal personale che svolge gli esami piuttosto che le visite, no? Quindi hanno tutte generalità diverse, un codice pure diverso, che a noi non c'è dato modo di vedere. Quindi questo è un po' quello che volevo dirvi, non so se ne eravate a conoscenza di questa creazione che c'è proprio qui a due passi, ma c'è dal 2011 questo del 41 bis e dal 2004 quello del carcere ordinario. Grazie Pino. Adesso passiamo a Napoli Monitor, che è collegato, che ci ha seguito fino ad ora. Riccardo, vediamo se ci senti. Sì, io mi sento bene. Sì. Eccoti, noi ti vediamo. Mi sentite anche? Sì, ti sentiamo, sì. Ok, perfetto. Allora, diciamo, faccio un intervento breve anche perché in merito, insomma, ai contenuti sono state dette, insomma, tantissime cose interessanti e tante che avevo anche in mente di dire, ma diciamo mi fa piacere, perché vuol dire che questo dimostra anche un allineamento su certe questioni, che non è soltanto appunto un posizionamento politico, ma è anche una volontà, insomma, di procedere nell'analisi, oltre che poi, diciamo, nell'azione politica su certe direttrici. Mi spiace molto non essere lì a Milano, mi sembra di aver capito dalle parole iniziali di Tommaso che ci sia insomma un po' di gente, e però purtroppo tra Roma e Napoli, insomma, abbiamo fatto un po' di iniziative in questi giorni, quindi avevo esigenza di stare, insomma, un attimo qui a Napoli, però ci tenevo allo stesso tempo a partecipare. E inizierei proprio, insomma, raccontandovi brevemente di un'iniziativa che abbiamo fatto ieri a Napoli, che non so se avete avuto modo, magari tramite il sito di Monitor eccetera, di seguire. Abbiamo fatto una presentazione del nuovo numero della nostra rivista, che si chiama Lo Stato delle Città, all'interno del quale ci sono tre articoli che dialogano tra loro e che secondo noi in questa fase sono molto importanti, perché raccontano un po', cercano di fare un po' un'analisi del livello particolarmente alto di questi tre anni. Chiaramente questo non vuol dire che sia una novità, ma provano, diciamo, a stare sul presente, mettendolo poi in comunicazione con il passato, del livello di repressione giudiziaria delle lotte. E abbiamo scelto per tre territori e tre situazioni che per noi sono simboliche e sono molto importanti, che sono appunto la lotta per la casa a Milano, come si è accennato in precedenza sul processo, con il processo Robin Hood, l'arresto e l'inchiesta e il processo, che comunque è bene dire rimane in piedi, così come altre decine di processi ai sindacalisti piacentini del Sicobas, nonostante poi l'accusa un po' anche grottesca di associazione a delinquere sia caduta, e l'inchiesta sui disordini e gli scontri, ma anche insomma relativi per entità avvenuti a Napoli durante il lockdown nel quartiere di Santa Lucia, a poca distanza dal Palazzo della Regione Campania, e diciamo con esiti in parte diversi, in parte comuni. Una delle cose che ci premeva sottolineare, oltre diciamo alla messa in relazione da un punto di vista proprio temporale, era il fatto che diversi elementi di queste situazioni fossero completamente degli impianti, ecco, accusatori di queste situazioni fossero degli elementi completamente distaccati dalla realtà, al di là appunto delle questioni dell'attacco politico alla base di questi provvedimenti. Ieri una cosa molto interessante emersa durante la discussione in cui sono intervenuti Alessandra Mincone, che è una giornalista di Monitor, e Arafat, che è uno dei sindacalisti messi particolarmente sotto accusa a Piacenza, era per esempio il tema della razzializzazione, nel senso che Alessandra poneva giustamente l'attenzione sul fatto che all'interno del fascicolo che noi abbiamo letto e analizzato questo tema fosse estremamente presente, nel senso che si tendeva costantemente, per rafforzare l'impianto accusatorio nei confronti dei sindacalisti che avrebbero strumentalizzato le lotte degli operai per ottenere dei benefici personali, c'era questa forte razzializzazione degli operai, della forza lavoro migrante, come in buona sostanza degli ingenui che si facevano mettere sotto scacco dai sindacalisti e facevano casino per degli interessi non loro, ma degli interessi individuali, e per di più c'era, con una semplificazione totale e assoluta, c'era il tema della il tema etnico, no? Sappiamo, probabilmente molti, quasi tutti voi sanno che Piacenza, per esempio, è una roccaforte, il sindacato Sicobas è una roccaforte di lavoratori egiziani, e questa cosa veniva letta con una semplificazione totale, con la solita retorica sulle tribù, eccetera, eccetera, che questi si uniscono, decide uno, gli altri eseguono, e così via. E diciamo, questa lettura, senza che noi ne avessimo parlato, Alessandra ne aveva accennato, entrava in una contraddizione totale con la lettura che faceva Arafat e la descrizione che faceva Arafat delle lotte su Piacenza, raccontando anche un aneddoto in cui lui, nei primi anni di lavoro e di attività sindacale, a un certo punto incontra un gruppo di lavoratori in una situazione di difficoltà palese economica, eccetera. Comunque lui, nella sua diciamo nel suo azzeramento di questo tema rispetto alla lettura sindacale e politica del momento, lui pensava fossero degli immigrati, invece erano dei lavoratori italiani che stavano diciamo decidendo sul da farsi, se partecipare o meno alle attività del sindacato. Questo per dire, senza poi citare la questione di Napoli, molti di voi avranno letto quando successe questa roba, che c'è tutto questo, fin da immediatamente dopo gli scontri c'era questa lettura per cui a Napoli in strada c'era stata una regia premeditata e collettiva di fascisti, ultras, anarchici, insomma tutti gli spauracchi rispetto all'opinione pubblica che erano utilizzabili. È stata costruita questa narrazione giornalistica, che evidentemente è partita proprio dalle questure e dalle procure, poi questo impianto accusatorio che è completamente, noi abbiamo fatto degli articoli su Monitor subito dopo per provare a smontare questa retorica che era clamorosamente ed evidentemente debole, eppure quella è diventata il cardine di questo impianto accusatorio che ha portato a accuse fortissime per chi è stato poi identificato rispetto a quella giornata. Questo per dire che questo piano di attacco politico nei confronti delle lotte, poi vengo chiaramente a parlare anche della questione di Alfredo, è assolutamente costruito molto spesso in una maniera anche superficiale, e però questo non impedisce alla magistratura e alle forze da un punto di vista giudiziario, che prima si parlava molto bene di una connotazione politica di una parte della magistratura che ha proprio il compito di lavorare in questo senso, questo non impedisce la mancanza di elementi o l'evidenza di una costruzione debole e fallace di certi teoremi, non impedisce comunque di andare avanti, tant'è vero che poi alla fine l'unico caso tra questi tre che ho nominato che è stato smantellato, che è quello di Piacenza in cui l'associazione è caduta, è successo perché il Tribunale del Riesame di Bologna, che già in passato era intervenuto proprio, mi sembra, su delle questioni legate agli anarchici lì a Bologna, è intervenuto e ha detto chiaramente alla procura: fate attenzione, qua state confondendo associazione per delinquere e associazione sindacale, perché da almeno 300 anni questa cosa di estorcere delle condizioni, come le chiamate voi, di lavoro migliori, o se si vuole usare un'altra terminologia, cercarle e ottenerle con la lotta politica, è una prerogativa del sindacato, quindi non c'è nessuna associazione a delinquere. E questa è una cosa che, per esempio, sempre sul territorio di Napoli riguarda i disoccupati organizzati, come sono stati anche citati in precedenza, si diceva ieri anche l'iniziativa, che è una delle poche armi di lotta che hanno per esempio i disoccupati, anche prendere un assessore, chiuderlo in una stanza e star lì a discutere e a spingere per una cosa, bisogna fare attenzione perché magari ti viene dato sequestro di persona e ti vengono date delle accuse pesantissime in questo senso. Un'altra cosa interessante che è emersa, e che è emersa anche all'inizio di questa discussione, purtroppo ho fatto un po' fatica a seguire chi fossero le persone che parlavano, ma mi sembra che i contenuti fossero assolutamente lucidissimi, è la questione della funzione di questi attacchi politici, che sono quelli chiaramente di colpire in una fase in cui c'è una possibile ricomposizione di classe o comunque una possibilità di certe lotte di comunicare tra loro, di andare a colpire quelle situazioni più avanzate che possono naturalmente, che sono individuate come delle possibili situazioni capaci di andare a mettere in difficoltà o quantomeno in discussione gli equilibri sociali, le situazioni di fragilità. Penso per esempio al provvedimento ministeriale che applicava il 41 bis ai tre brigatisti che attualmente sono a 41 bis, ovvero Nadia Lioce, Morandi e Mezza Salma, in cui si diceva esplicitamente questo, nel senso che si giustificava questo provvedimento dicendo questi provvedimenti, dicendo che quei messaggi potevano essere, cioè, quindi proprio un ragionamento prettamente politico che di giudiziario non ha nulla, potevano essere dei messaggi capaci di far presa in una fase, in un momento in cui c'era una situazione di equilibrio sociale fragile che lo Stato non riusciva a gestire. E questa cosa mi sembra che compaia anche nelle discussioni che sono state fatte oggi, oltre alla questione veramente centrale che pure è stata detta, e quindi non mi ci dilungo, rispetto al fatto che il cambiamento di accusa di capo di imputazione che è stato fatto rispetto all'accusa per Alfredo Cospito è chiaramente un tentativo, così come, seppur in maniera diversa rispetto a quelli di Piacenza, in cui si attaccano fortemente i leader sindacali per intimorire i lavoratori, rispetto a quello di Milano in cui si identifica la pratica stessa di lotta per la casa come una pratica criminale, il caso di Alfredo forse è più emblematico e più, diciamo, anche proprio toccante politicamente ed emotivamente, perché parliamo di una vita intera di una persona, di un provvedimento inumano come il 41 bis, che è di fatto un monito a chi lotta e che dice se si scusate, forse era saltato il microfono, si rischia di fatto la vita e si rischia di passare la vita in carcere, magari una buona parte di questa al 41 bis. Un altro esempio che è stato fatto ieri chiaramente, abbiamo avuto Caterina Calì e Carmine Malinconico a analizzare un po' l'aspetto giuridico di queste situazioni, è l'abuso dell'accusa di devastazione e saccheggio, che per molti anni nella storia giudiziaria della nostra Repubblica non è stato utilizzato, mentre invece da un certo punto in poi se ne fa un uso enorme, proprio in quest'ottica appunto di monito, di tentativo di creare appunto una minaccia rispetto a chi fa le lotte e a spaventare e a minacciare letteralmente rispetto a chi prova a mettere in discussione l'ordine sociale. Un'ultima cosa la volevo dire rispetto alla diciamo all'importanza da un punto di vista di lettura del tema carcere in generale e dell'analisi e della messa in discussione del carcere in sé che il caso Cospito porta dietro di sé e che sta nel fatto che contemporaneamente con una serie di tempistiche ben precise e ben studiate, in questo caso noi abbiamo due tematiche centrali che colpiscono la storia politica e la vita personale di Alfredo, che sono appunto il tema dell'ergastolo e il tema del 41 bis di cui si è parlato ampiamente. E su questo una riflessione che forse vale la pena fare è quella rispetto agli alleati. Noi stiamo vedendo in questi giorni anche una certa sinistra democratica, no? Che interviene su queste tematiche, sul caso di Alfredo, probabilmente con l'intenzione appunto di accreditarsi come sinistra in una fase politica in cui esiste un enorme vuoto nella sinistra democratica e nella sinistra parlamentare. Però poi forse sarebbe opportuno da un lato naturalmente dare tutta la forza possibile alla battaglia per Alfredo, che lui stesso naturalmente spiega come una battaglia non individuale ma collettiva e sul sistema carcerario, ma sarebbe opportuno provare in qualsiasi sede a smascherare questa ipocrisia per cui su Alfredo magari ci si espone, però poi se si prova a incalzare, a mettere in discussione l'ergastolo e il 41 bis si scappa via, perché sono dei tabù che naturalmente in questo paese ci si guarda bene dall'affrontare. Quindi questa è un'ultima osservazione che secondo me valeva la pena fare, pur nonostante, diciamo, rendendosi conto che in una fase del genere, con una situazione non solo politica ma anche personale, perché parliamo di 40 credo giorni in cui Alfredo è in sciopero della fame, comincia a diventare di una pericolosità assoluta, quindi qualsiasi da un punto di vista mediatico politico, qualsiasi spinta naturalmente può essere utile. Però allo stesso tempo una cosa su cui forse vale la pena riflettere è questo elemento che appunto poi è stesso Alfredo e sono stesso le compagne e compagni che hanno scelto questa forma di lotta a mettere in rilievo, che chiaramente si lotta per, ed è una cosa che per esempio viene fuori in questa ipocrisia secondo me del dibattito sullo stativo. C'è Carmelo Musumeci che lo dice chiaramente: andiamo a vedere quante sono le persone all'ergastolo che accedono, che possono accedere e che nella realtà accedono ai benefici, e quante invece muoiono all'ergastolo al 41 bis. E quindi rendiamoci conto che questa cosa dello stativo è una cosa importante, lo ripeto, perché ci sono in gioco le vite delle persone, ma andiamo a riflettere sul fatto che i veri temi sono eliminazione di ergastolo ed eliminazione del 41 bis. E questo, diciamo, è qualcosa su cui la sinistra pseudo-democratica parlamentare andrebbe sfidata su questi terreni, anche quelle personalità che magari sembrano più in vista e pronte a appoggiare certe discussioni, perché poi, come ripeto per l'ennesima volta, stesso Alfredo, le compagne e i compagni che sono in sciopero della fame ce lo insegnano, è lì che bisogna andare a estendere questa lotta, che chiaramente, se ti trovi dietro le sbarre, tanto più nelle situazioni di 41 bis, è una lotta che parte come lotta individuale, perché tu non hai contatti con altre persone se non quelli censurati fino a un certo punto in cui si è potuto epistolarmente, e quindi non ti resta che questo, ma poi deve diventare, è chiaro che anche una banalità ed è inutile dirlo, una lotta collettiva, e che deve a un certo punto, se si vuole raggiungere un obiettivo, diventare anche una lotta sociale e su un terreno di condivisione anche con chi magari ha un'ottica diversa rispetto alla nostra, ma che su certi temi va sfidato e va messo alle strette rispetto alle vere problematiche. Questo è un po' quello che insomma mi sentivo di dire rispetto a anche per non ripetere quello che è stato detto fino adesso. Grazie mille. E diciamo che, vabbè, in questi articoli c'è un po' questa cosa che tu dici, questa forma di garantismo sghembo, per cui si dice cospito al 41, no, perché non è neanche mafioso, dice, per cui no, è come dire. Hai citato due situazioni nel tuo intervento che sono quelli che noi avremmo previsti per chiudere, che sono i SICOBAS e il comitato di lotta del Giambellino. Quindi, visto che siamo andati lunghi, passerei la parola al compagno del SICOBAS, che è là, esatto, e a ruota al comitato di lotta del Giambellino, che non vedo, ma c'è. Sì, metti qua. Ma allora sì, intanto ringrazio tutti per l'invito di intervenire, perché è importante, insomma, che ci si possa anche confrontare rispetto a quello che è l'atteggiamento che riscontriamo nella fase repressiva da parte del nostro nemico nell'opposizione alle lotte reali che possiamo mettere in campo. Allora, io prendo uno spunto dall'introduzione della compagna Lina, in cui evidenziava che la repressione rispetto alle lotte reali diventa funzionale alla possibilità del capitale di ristrutturarsi per garantire la propria esistenza, ovvero la possibilità che i padroni, cosiddetti padroni, la borghesia, possa continuare a fare profitto sul nostro sfruttamento, possa continuare ad esercitare un potere per cui la società sia una società basata sull'oppressione di classe. Allora, in che termini questo è effettivamente reale? Cioè, giusto per portare un esempio, proprio a livello temporale, l'attacco che noi subiamo su Piacenza nel 2021, non quello di quest'anno, quello del 2021, vede l'arresto di 21 compagni, tra cui tra perquisizioni, arresti domiciliari, eccetera, eccetera, tra cui Arafat stesso, nel momento in cui Arafat, come coordinamento provinciale del SICOBAS, non solo l'individuo, però decide di andare e aprire un rapporto con i lavoratori di Amazon. E quindi si fa, una settimana prima dell'arresto, un'iniziativa molto importante fuori dal magazzino di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, che è il più grande hub in Italia di Amazon. Quel territorio, è inutile forse ricordarlo, però è il territorio principale in Italia e anche a livello europeo, dal punto di vista del settore logistico, dello sviluppo del settore logistico sul territorio nazionale e internazionale anche, perché collega direttamente anche il porto di Genova, quindi non solo a livello nazionale, il territorio piacentino è fondamentale, ma addirittura internazionale nello sbocco dei mercati verso l'Africa e verso il Maghreb. Ecco, non è un caso che questo attacco nel 2021, nella primavera, marzo del 2021, arriva proprio subito dopo la possibilità del SICOBAS di entrare all'interno di questo settore, che è fondamentale anche proprio nella ricomposizione dello sfruttamento, nella ristrutturazione della forma di sfruttamento sulla forza lavoro a livello internazionale in particolare, ma in Italia. Non è un caso che questo attacco arriva preventivo rispetto alla chiusura del sito piacentino di FedEx, altra multinazionale che chiude i propri battenti a Piacenza, dove il SICOBAS scontrava 300 iscritti, e l'arresto di questi compagni, buona parte di loro, non solo Arafat che è stato citato, ma in questo caso 21 compagni sono stati coinvolti all'interno di questo attacco, delegati stessi della FedEx di Piacenza. Allora, in che senso la repressione funzionale ha questo dominio di una classe sopra l'altra? Nel senso che poi si traduce anche nella propaganda antisindacale portata ad elemento politico da parte della magistratura. Sto citando Piacenza, ma la repressione noi non la subiamo solo sulla città di Piacenza, forse questo però è l'esempio più pratico, anche più facile per dimostrare qualcosa. La Pradella, in tutte le carte, in tutte le dichiarazioni che fa, oltre a diffamare anche a livello personale i compagni, sostiene la teoria per cui no, noi siamo democratici, noi non ce l'abbiamo con l'organizzazione sindacale in sé, noi ce l'abbiamo con questa organizzazione sindacale per le pratiche che mette in campo. Dovreste prendere esempio dalla CGIL, lo dice chiaramente, dovreste prendere esempio dai sindacati confederali, perché quello è fare sindacato. Quello è, il vostro è un'associazione a delinquere. Voi siete dei banditi che vanno ad estorcere illegalmente, con pratiche illegali, con pratiche estorsive, quindi con la pratica stessa di bloccare le merci e quindi impedire che i padroni possano fare profitti nelle giornate di sciopero, e che questo sia effettivamente associazione a delinquere. Associazione a delinquere che riscontriamo anche con i compagni che interverranno dopo di me, del Giambellino, attivi nella lotta per la casa, associazione a delinquere che è un teorema con cui stanno attaccando anche il movimento 7 novembre dei disoccupati a Napoli. Quindi l'organizzazione di classe sul terreno della lotta reale diventa associazione a delinquere. Ora, questa è la repressione, questa è il modo con cui la repressione si allaccia direttamente agli interessi della classe opposta alla nostra, cioè anche proprio nel tempo in cui esercita gli arresti, in cui mette in campo i propri strumenti anche per limitare la nostra possibilità di esercitare l'attività sindacale piuttosto che la nostra libertà personale di circolare sul territorio. La repressione però è anche qualcosa che condiziona già il lavoratore. 95% dei lavoratori del SICOBAS sono lavoratori immigrati, che vuole il potere, vuole condizionare anche su un piano che non è direttamente quello del carcere, ma che lo è in relazione ai CPR, anche la figura stessa dell'immigrato che deve arrivare in Italia sotto una propaganda velenosa sulla nostra classe per mettere uno contro l'altro, dove si dice che l'immigrato sarebbe nemico del proletario italiano. Nella realtà il proletario immigrato deve essere assolutamente assoggettato alla fame di profitto della classe dei capitalisti, e deve essere condizionato anche nella possibilità di immaginare la capacità di resistere. Quindi si arriva, arrivano in Italia e subito vengono indicati come fossero dei delinquenti, chiusi nei CPR, devono abbassare la testa in condizioni disumane. Qua a Milano ci abbiamo un CPR dove ci sono testimonianze dirette di come effettivamente gli immigrati sono reclusi pur non avendo commesso nessun reato, nessun crimine, neanche per l'ordinamento borghese, l'ordinamento del nostro Stato, però ci sono testimonianze dirette di come gli immigrati sono reclusi all'interno di queste strutture. Dovremmo prenderci carico anche di questo come una parte di un attacco a noi stessi, alla nostra classe. Perché? Perché devono diventare forza lavoro sfruttabile, devono diventare forza lavoro direttamente concorrenziale ai lavoratori italiani, ma non perché lo sono, perché sono i nostri nemici, ma perché ne devono diventare forza lavoro che può essere pagata con un salario bassissimo, quasi da fame, così come gli attacchi che ci sono in questo momento sul reddito di cittadinanza vanno nella stessa scia. È chiaro che se tu vuoi rimettere forza lavoro, che in questo momento con una miseria di 600 euro per una famiglia però hai tolto dalle mani degli sfruttatori, e in questo momento possono un minimo rifiutare di fare qualche lavoro dei 12-13 ore al giorno per portare a casa una paga da fame, questi disoccupati devono tornare ad essere carne da macello all'interno del sistema capitalistico. Allora la repressione è anche questa, la repressione è il condizionamento che ci porta a pensare che la nostra società sia una società dove per forza di cose dobbiamo agganciare le nostre aspettative in quanto proletari a quelle di un esercito che va in guerra piuttosto che di un altro, e alla fame imperialista di guadagno delle nazioni occidentali, di uno schieramento piuttosto che di un altro dietro una bandiera nazionale. Questa è l'ideologia che ci vogliono trasmettere, ed è chiaro che chi si oppone direttamente a questo tipo di politica deve essere indicato preventivamente, come è stato detto, preventivamente come un possibile nemico di classe da schiacciare subito. L'organizzazione in sé dell'organizzazione sindacale del SICOBAS è un'organizzazione che è pericolosa anche politicamente per lo Stato italiano, è pericolosa perché contiene all'interno di lotte che sono essenzialmente lotte economiche una spinta che va oltre queste lotte, una spinta che combatte direttamente sul terreno dell'organizzazione la ricomposizione della classe al di là di ogni differenza etnica. Quindi mette in discussione proprio questa, cioè, ci sono 43 etnie differenti rappresentate all'interno del SICOBAS, quindi va in una direzione di ricomposizione, come è stato detto, apre rapporti con i disoccupati napoletani, apre rapporti con le realtà di lotta, è un'organizzazione sindacale, è una pratica, diciamo, di lotta sindacale che contiene all'interno anche nella lotta stessa la capacità anche di opporsi direttamente al nuovo modello di sviluppo dello sfruttamento del lavoro in Italia, cioè essere e combattere direttamente le multinazionali che oggi rappresentano l'avanguardia dello sfruttamento di un nuovo modello anche di automazione del lavoro, come si diceva prima rispetto ad Amazon, che stanno seguendo in scia però anche aziende italiane, compresa la stessa Poste Italiane con SDA, vuol dire combattere direttamente sul terreno dello scontro lo stesso Stato italiano che rappresenta degnamente gli interessi borghesi, gli interessi di classe. Ecco, io credo che questi siano gli elementi che noi portiamo oggi in questo dibattito. Lo facciamo citando anche quegli attacchi che non riguardano solo Piacenza, ma il fatto che Piacenza appunto è stata citata per quanto riguarda gli arresti che ci sono stati quest'estate ai compagni, però anche qua a Milano, a parte che abbiamo qualcosa come 170 processi a nostro carico solo in Lombardia, e sono dati reali, ma anche qua a Milano in questo momento rispetto alla lotta che si è sviluppata un anno fa per la difesa dal licenziamento di 30 lavoratori all'UNES, negli hub, nei magazzini dei supermercati UNES, siamo sotto attacco da parte di Ichino, che si è proposto addirittura all'azienda come suo lui stesso sta probabilmente lavorando gratis pur di andare contro il SICOBAS, e il signor Ichino in sostanza vuole legittimare la possibilità legale di licenziare lavoratori in sciopero a livello giuridico per poi arrivare, quindi i licenziamenti vengono impugnati da noi, ma in realtà Ichino ci anticipa e dice andiamo davanti a un giudice, voglio andare io davanti a un giudice perché voglio che il giudice e il Tribunale di Milano riconoscano che i nostri licenziamenti sono legittimi. Cioè stravolge tutto, nel senso che di solito sono i lavoratori che impugnano il proprio licenziamento, in questo caso addirittura il padrone che vuole andare in tribunale perché vuole che ci sia un precedente giuridico sul fatto che la pratica di sciopero con il blocco delle merci è motivo per cui le aziende possono licenziare, con la collaborazione della Digos, perché Ichino ha a mano le fotografie di tutti i lavoratori che hanno partecipato e gliela passate direttamente la questura di Milano in questo processo, e che possano essere licenziati col riconoscimento del tribunale, per poi arrivare a cosa? A un secondo attacco. in un altro processo che stanno già preparando e hanno già dichiarato di voler fare, la richiesta di 1,5 milioni di euro per i danni ricevuti, danni economici ricevuti con lo sciopero. Quindi poverini, loro sfruttavano i lavoratori, loro li hanno licenziati dopo uno una giornata di sciopero, e ci vengono anche a chiedere all'organizzazione sindacale, ci vengono anche a chiedere di rimborsargli quelli che sono i danni dello sciopero. Cioè, se passa un concetto del genere, è chiaro che ovviamente anche su UNES arriverà anche il processo penale contro tanti di noi che siano stati coinvolti in quei picchetti, però se passa questo è altrettanto pericoloso. Se arrivano a chiedere al sindacato di rimborsare i danni dello sciopero, il sindacato non sta in piedi, compagni, cioè non andiamo avanti, non è anche forse anche più pericoloso, perché la lotta può produrre nuovi quadri anche da un punto di vista sindacale se c'è la capacità di coinvolgere i lavoratori e il loro protagonismo. Ma quando manca l'acqua, la papera non galleggia, si dice. E anche su questo piano la stessa cosa la stanno facendo a Modena, dove a Modena praticamente ci sono qualcosa come 110, mi sembra, 110 tra compagni e lavoratori coinvolti in un processo penale rispetto alla lotta di Italpizza di qualche anno fa, dove oltre al fatto di avere la denuncia a proprio carico penale per articolo 610, il blocco delle merci, viene chiesto anche qua al sindacato di rimborsare, non mi ricordo se 2 o 3 milioni di euro per gli scioperi che erano stati repressi con addirittura coi lacrimogeni e un numero incredibile di poliziotti e di carabinieri che arrivavano ad attaccare i picchetti dopo neanche mezz'ora che ti trovavi lì. Allora questa è la condizione, è normale che, come è stato detto prima, da dove nasce questa cosa? Nasce dalla necessità del capitale di ristrutturarsi in una fase come questa, che è una fase di crisi economica acuta, che è una fase in cui ci affacciamo un 2023 dove probabilmente tutte le analisi economiche portano a indicare che ci sarà l'Italia, e non solo l'Italia ma anche la Germania, in recessione, dove il costo della vita aumenta, ma già da prima, addirittura già da prima della guerra. Non è solo l'economia di guerra che ha portato all'aumento dei costi, ma in tutto il mondo c'è una tendenza inflattiva. E questo è, allora è chiaro che bisogna attaccare le avanguardie di classe per fare in modo che queste avanguardie non possano diventare un elemento che si allarga a macchia d'olio su tutto il resto degli oppressi, su tutto il resto degli sfruttati. Noi non lo diciamo come Sicobas, siamo convinti del fatto che non può essere Sicobas a diventare sindacato di milioni e milioni di lavoratori, non abbiamo questo tipo di idea, non è questa la nostra concezione, ma pensiamo che la politica non si faccia esclusivamente tra compagni, ma che vada fatta insieme ai lavoratori, sia sul terreno della pratica del conflitto, ma anche nel terreno del ragionamento degli obiettivi che individuiamo, per fare in modo che sia la classe stessa, e questo è stato forse il limite che hanno avuto i movimenti operai in Italia, che questa volta sia la classe stessa a concepire anche un concetto più politico della lotta economica. Grazie. Velocissimo, scusatemi, ricordo solo due appuntamenti importanti, due giorni che si avvicinano, perché poi è come siamo poi anche sul terreno effettivo dell'organizzazione dello scontro che fa la differenza. Il 2 dicembre ci sarà lo sciopero nazionale e quindi anche a Milano metteremo in campo dei picchetti. Come Sicobas non saremo in piazza quel giorno a Milano, a differenza di altri sindacati, perché per noi vanno presidiati i posti di lavoro e vanno bloccate le merci. Quindi il primo modo anche per combattere la repressione è la lotta stessa. L'attacco al diritto di sciopero si combatte con lo sciopero. E il 3 invece andremo a Roma per la manifestazione nazionale, che sarà unitaria, ma dove noi invitiamo le realtà ad aderire a un appello che è girato per uno spezzone di classe internazionalista insieme ai lavoratori nel corteo unitario di Roma del 3 dicembre. Grazie. Comitato di lotta del Giambellino, il più citato in tutta la vita. Fu comitato. Beh, dunque, allora proverò ad essere il più breve possibile. Vabbè, credo che più o meno sia cosa nota, le sentenze che ci sono state adesso di primo grado, come si diceva prima, si parte da un minimo di un anno e sette mesi fino a un massimo di 5 e 5, se non mi sbaglio, adesso potrei sbagliarmi, mese più, mese meno, per 9 persone. Le condanne sono per associazione a delinquere con la finalità di occupazione e resistenza. Questo significa che in totale nel processo c'erano imputati una 40 di capi d'accusa, di cui appunto il principale era l'associazione a delinquere, e poi c'erano i cosiddetti reati scopo, che erano occupazione e resistenza. Di cosa stiamo parlando nel concreto, al di là del linguaggio giuridico? Parliamo principalmente innanzitutto parliamo di un comitato di quartiere, quindi di un insieme di abitanti di una specifica zona di Milano, che è un quartiere popolare, che è quello del Giambellino, che sostanzialmente hanno creato un comitato di inquilini. Le pratiche che vengono portate come dimostrazione dell'esistenza dell'associazione a delinquere, nel concreto si tratta di pratiche per lo più ordinarie, mi immagino, per tutte le persone che sono qua, nel senso che si tratta sostanzialmente di picchetti antisfratto, di occupazioni, in questo caso di case, ma anche di un centro sociale, insomma, che poi noi non chiamavamo centro sociale, ma per intenderci a grosso modo si parla di quello. Queste sono tendenzialmente le cose che vengono imputate. Quindi stiamo parlando del fatto che si è riusciti ad arrivare a una condanna anche abbastanza pesante su delle pratiche che sono delle pratiche di lotta, delle pratiche comuni a tutti, credo, quindi delle pratiche basilari che costituiscono patrimonio comune di ogni lotta che esista per come la conosciamo noi, ma non da oggi, direi da quando si parla di organizzarsi a livello appunto di sindacati, a livello di scioperi, picchetti, di case, ma anche da ben prima, a ben vedere. Forse è difficile trovargli qual è la precisa radice storica di tutte queste pratiche. Comunque sono pratiche che esistono da tantissimo tempo e che con questa sentenza vengono messe in discussione, quindi non vengono messe in discussione esclusivamente per noi che siamo stati condannati. La cosa più pericolosa di tutte è il fatto che domani potenzialmente sono allargabili a chiunque. A chiunque significa non soltanto a chi si organizza, in primo luogo a chi si organizza, quindi pensiamo chiaramente a noi compagni, ma questa platea può essere allargata all'infinito. Si pensi, appunto, prima ne sono state citate alcune, per esempio il decreto raver, il decreto sui rave, io credo che vada in linea di continuità con determinate cose. Nel momento in cui appunto si dovesse, per dire, con un teorema accusativo delineare delle responsabilità rispetto al effettuare un rave illegale e si dovesse procedere con delle operazioni di sgombero, all'interno di queste operazioni di sgombero qualcuno facesse una resistenza, se questo succedesse 2 o 3 volte potrebbero a questo punto esserci gli estremi per pensare a un'accusa di questo tipo, perché purtroppo le tendenze tendono a fare scuola. In questo senso credo che sia abbastanza illuminante quello che è stato detto in aula nell'ultima udienza da parte del pubblico ministero, che si è, insomma, volendo replicare alla difesa fatta dai nostri avvocati, ha citato la sentenza per quanto riguarda quelle che erano insomma i picchetti antisfratto che venivano fatti a Torino qualche anno fa, qualcuno se li ricorderà, che dopo sono andati a processo, e ha voluto citare le sentenze di questo processo per delineare l'ipotesi di resistenza per tutte le persone che partecipano al picchetto. Quindi non importa se le persone che partecipano al picchetto hanno messo in atto una condotta penalmente rilevante, sì o no. Quello che importa è la partecipazione stessa al picchetto, perché il picchetto stesso costituisce sostanzialmente una resistenza, perché lo scopo del picchetto, lo scopo ultimo, è quello di far desistere l'ufficiale giudiziario, quindi un pubblico ministero, dallo svolgere il suo lavoro, dallo svolgere il suo compito, la sua mansione. Quindi non importa se appunto in questi picchetti antisfratto sia arrivato qualcuno a chiedere, a dire voglio eseguire delle operazioni e qualcuno gli abbia detto sì, no, forse, non importa niente di tutto ciò, anche se non ha parlato nello specifico l'ufficiale giudiziario nel caso degli sfratti, nel nostro caso trattandosi di sgombro parliamo di ispettori Haller piuttosto che personale di polizia, non importa se nessuno ha effettivamente messo in atto un'ostilità manifesta, parole o con gesti, il solo fatto di essere là è che la polizia, l'Haller o chi per loro abbiano tratto la conclusione di non poter effettuare con i presupposti di ordine pubblico necessari le operazioni di sgombro, già di per sé ecco la resistenza. Nel momento in cui si viene a tracciare questo, giustamente ci sono state delle repliche da parte dei nostri avvocati, Pippo era là presente, ha replicato giustamente citando l'articolo 40 del codice penale, che sarebbe il principio di causalità, che sostanzialmente viene detto che, adesso magari lo leggo così lo dico bene prima di dire castronerie, scusate mi prendo sto tempo, è molto breve, non... Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi sostanzialmente stiamo parlando appunto del fatto anche di ritorcere il diritto. Cioè, il diritto già di per sé pensato come strumento evidentemente repressivo, evidentemente teso appunto anche a punire, ad andare contro a comunque li vogliamo chiamare proletari, chi lotta, chiunque, in questo caso viene addirittura ritorto per assumere una funzione ancora più repressiva, per riuscire comunque a scardinare anche quelli che sono i principi base di un ordinamento giuridico base come può essere il nostro, per riuscire sostanzialmente ad andare oltre. Quindi direi che da questo punto di vista quello che sarebbe interessante, sicuramente non ce l'abbiamo ancora, a leggere le motivazioni della sentenza nei nostri confronti, e sicuramente quando usciranno sarà nostro dovere farle circolare e far sì che siano leggibili per tutti. Ma al di là di tutto è evidente che appunto le condanne un pochino già parlino da sole, e che comunque questa accusa di associazione a delinquere che ha retto è evidente che sia problematica per tutti, e infatti è un po' anche l'invito che vorrei fare adesso, è anche a prenderla come un qualcosa che non riguarda esclusivamente le persone condannate, quindi che non riguarda esclusivamente il Giambellino, che non riguarda esclusivamente chi è stato, chi in questo momento è sotto processo per quelle stesse accuse a Napoli, a Piacenza, adesso a Torino, ancora ci sono quelli sotto processo a Padova per questo, se non mi sbaglio. Ma l'invito a questo punto è quello di prenderla come un qualcosa di collettivo, un qualcosa che riguarda tutti, perché riguarda un attacco che viene portato alle nostre pratiche e ancora di più rispetto alle nostre pratiche, alle nostre forme di vita. Perché nel momento in cui si traccia associazione a delinquere si intende esattamente punire il fatto di associarsi, quindi il fatto di mettersi assieme, il fatto di rompere l'isolamento, che è esattamente parte dello stesso dibattito che si stava seguendo adesso rispetto al 41 bis. Il 41 bis vuole isolare perché isolati si è più inoffensivi, quando si è assieme si è più pericolosi. Pericolosi perché? Non tanto perché si immagina di costruire chissà quale progetto, non necessariamente questo, ma pericolosi già solo ed esclusivamente per il fatto che si sta assieme. Il fatto di essere assieme già di per sé risulta essere offensivo, se questo stare assieme in una qualche maniera non passa dai canali previsti dal governo, dalle forme di governamentalità. Quindi il fatto che ci siano delle persone in un quartiere popolare che non hanno occupato una casa di nascosto o si sono messe a vivere in una qualche maniera. Quello che è successo di base nel comitato è stato che si è creata un'esperienza che ha rotto delle solitudini, che ha rotto delle divisioni, perché come tutti i quartieri popolari, il Giambellino vive di divisioni, vive di fratture che sono sostanzialmente quelle più classiche che ci si può immaginare: italiani, stranieri, giovani, vecchi, immigrati, regolari, irregolari, africani, sudamericani, tunisini, egiziani, una molteplicità di divisioni, e sostanzialmente esperienze come quelle del comitato invece magari tendono a rompere queste divisioni, a mettere assieme il fatto che ci siano delle persone, appunto assegnatari, occupante, che riescono a parlare, non solo riescono a parlare, ma riescono ad organizzarsi, a pensare la loro esistenza come un qualcosa di offensivo per il semplice fatto di potersi parlare, di potersi associare, appunto, e quindi creare sostanzialmente un qualcosa che può mettere in discussione l'ordine di cose presente. Il fatto di fare questo è evidentemente pericoloso, è evidentemente la cosa che viene punito, ed è esattamente per questa ragione qua che non bisogna smettere di farlo, evidentemente. Niente, io ho finito. Un'ultima cosa, perché appunto... No, allora, no, appuntamenti non ce ne sono ancora. Appunto per questo però volevo dire, proprio perché credo che sia molto importante che la cosa sia assunta da tutti, sicuramente ci saranno delle iniziative in futuro. L'invito è un pochino in generale, almeno è una questione mia personale che esprimo assolutamente da un punto di vista individuale, a me piacerebbe che questi dibattiti, le iniziative come quelle di oggi, si moltiplichino e che in più si riesca anche a moltiplicare le iniziative anche in strada, le possibilità di mobilitazione, perché credo che, riprendo un pochino quello che diceva Pippo prima, forse si sta ricominciando un pochino con varie questioni che stanno circolando, dalla questione del mandato d'arresto europeo a appunto altri reati che venivano posti, devastazione e saccheggio eccetera, si sta ricominciando, per non parlare del 41 bis ovviamente, a mettere un punto su alcune cose, e questo punto sta iniziando ad uscire, quindi credo che ci sia effettivamente la possibilità di mobilitarsi, e l'invito quindi per tutti quanti è di dargli un seguito, ecco. Approfitto che c'è ancora parecchia gente per anzitutto dire che il 1° dicembre, è stato ricordato, ci sarà l'udienza a Roma del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ci deciderà in merito alla riapplicazione del 41 bis di Alfredo. Per quel giorno qui a Milano abbiamo chiamato un presidio dalle 10 della mattina al Tribunale di Milano, e saremo lì con striscioni, l'impianto per fare degli interventi, e vorremmo distribuire quel pieghevole che in parte era anche su quel tavolino, forse adesso è finito, però che contiene le dichiarazioni degli avvocati che sono stati fatti recentemente, a cui hanno anche aderito, hanno firmato anche molti altri avvocati, le dichiarazioni dei compagni in solidarietà a Alfredo che sono in sciopero della fame, non potendo disporre di quelle di Alfredo, e vorremmo distribuire questo volantino qui in tante copie sulle 4 porte del Tribunale. Quindi invito tutti a essere presenti quella giornata, perché la battaglia è molto lunga sul 41 bis, sul carcere eccetera, però nello specifico sulla vicenda di Alfredo i tempi sono molto stretti e occorre mobilitarsi in maniera tempestiva. Aggiungo solo due cose che mi sono venute in mente su questo dibattito, nel senso, io sono del collettivo Olga, che è un collettivo che si è formato all'inizio intorno al 2005 sulla spinta anche, va bene, dell'esperienza dei compagni della panetteria, e in particolare di compagni che hanno subito lunghe carcerazioni e hanno fatto grandi lotte all'interno delle carceri, soprattutto speciali, e ci hanno anche costituito un passaggio di testimone per quelle che erano e le esperienze che si vivevano fuori in quel periodo e anche per la continuità di quell'esperienza all'interno delle carceri, della battaglia della Sinara e via discorrendo, e il nesso che c'era quindi tra le lotte fuori e le lotte dentro, e quindi la resistenza dentro e fuori, diciamo, in quel periodo e anche successivamente, che per noi è stato, per tutti quelli che si sono formati in quegli anni lì, è stato un bagaglio, diciamo, formativo molto importante, perché non solo, non tanto perché noi ci siamo specializzati sul ragionamento anticarcerario, come si dice oggi, ma proprio per il contrario, perché abbiamo capito come il carcere e la repressione fosse un qualcosa di trasversale a tutta la società, un momento non separato e un luogo non separato dalla società, ma con cui tutti dovevano prima o poi avere a che fare, proletari che lottano o che non lottano e compagni rivoluzionari e non, comunque che lottano, tutti hanno a che fare col carcere, il cui elemento principale è il discorso della desolidarizzazione come primo elemento, come obiettivo principale della repressione del carcere, che poi diventa anche differenziazione, nel senso che nel momento in cui si accetta che esistono differenti piani repressivi, si accetta anche una società differenziata in diversi piani, e quindi si rompe, si scompone un, diciamo, un principio anche egualitarista, no? Che riguarda quantomeno una società divisa in classi, e un principio egualitarista per una classe, per la classe proletaria degli sfruttati, si viene a scomporre, vale a dire si cominciano ad accettare delle eccezioni che poi si vanno a subire. Racconto un piccolo esempio che ci aiuta, cioè, che può aiutare a comprendere un ragionamento più generale. Più o meno 15 anni fa, prima delle primavere arabe, ricevemmo delle lettere di alcuni detenuti che erano nel carcere di massima sicurezza di Macomer, in quanto gli veniva attribuito il ruolo di essere terroristi internazionali di matrici islamiche, eccetera. Era dopo il 2001, dopo le Torri Gemelle, tutto, e tutti sappiamo, diciamo, l'evoluzione che ha avuto quell'emergenza su tutta la società, eccetera. E ci scrissero e ci dicevano: guarda, noi abbiamo un processo a Milano, abbiamo conosciuto la vostra associazione, se vi interessa di scoprire come si fa un processo per queste cose, venite a vederlo. Noi abbiamo seguito in pochi, eravamo, insomma, per un anno questo processo, si chiamava Operazione Bazar. E gli imputati erano dei tunisini che all'epoca erano accusati di far parte di un'associazione, di un partito all'epoca illegale sotto Ben Ali, che si chiamava Enada, e per questo, diciamo, processati di terrorismo islamico e quant'altro. Dopo le primavere arabe, con la caduta di Ben Ali, abbiamo visto tra l'altro che Enada, quel partito, ha vinto le elezioni, eccetera. Quindi in quel periodo però cosa succedeva? Cosa ci siamo resi conto? Di tante cose di quell'aspetto. Ci siamo resi conto, uno, che in quel caso c'era un esponente dei carabinieri di Imperia, perché il caso era nato lì e poi era stato portato a Milano, perché c'erano alcuni che erano di Milano, è diventato poi successivamente un personaggio di spicco dei ROS di Milano, quindi ci sono esigenze di carriera individuale all'interno dei corpi di polizia. Dentro c'erano testimonianze, perché seguendo tutto il processo poi ti rendi conto di tante cose. I primi giorni sui giornali c'erano processo e terrorismo islamico finalmente sgomento, ce n'erano tanti in quegli anni poi di queste cose, molti avvocati anche presenti, ne hanno seguiti diversi. Poi dopodiché non c'era un giornalista che ha seguito il processo e ha dato conto di queste cose fino alla sentenza. Abbiamo visto testimonianze del fratello di un ragazzo che gli aveva portato 50 euro al carcere per sostenerlo, e c'aveva l'imputazione del 270 ter, sostegno finanziario a un'organizzazione terroristica. Molti erano imputati perché avevano precedenti ordinanze di custodia cautelare in fase preliminare di indagine, assolti, e però veniva portata quegli elementi come fossero elementi probatori e come elementi di accusa. Alcuni erano chiaramente tirati dentro con l'unico scopo di ottenere testimonianze favorevoli che individuassero Tizio Caio come responsabili di qualcosa, eccetera. Non gli è andata molto bene. Un gommista di Cologno raccontò: ma io sono un tossico, lo sanno benissimo a Cologno anche i carabinieri, secondo voi Al-Qaeda mi prende a me, questa era per dire una testimonianza che abbiamo raccolto lì. L'ultimo giorno, dopo un anno, il giorno della sentenza, in aula venne, c'era Spataro, che era procuratore capo allora, con il chiaro obiettivo di che ci fosse una sentenza di condanna, nonostante le evidenze erano, molto spesso le giornate erano a elencare numeri telefonici, utenze, cose di questo tipo, con per forse che qualcuno aveva intercettato, che poteva essere un terrorista di un altro tempo, però cose che, risibili, più di quelle che avvengono magari nel mondo, diciamo, dell'attività militante, eccetera, dove c'è una maggiore attenzione. Lì proprio attenzione non c'è alcuna, si possono permettere qualsiasi cosa. Quel giorno ci fu Spataro in aula, ci fu una sentenza di condanna, noi dicemmo qualcosa, fummo comprensivamente ignorati, neanche repressi, perché dopo un anno che segui un processo te lo sei guadagnato il diritto a stare in quell'aula, ignorati. Questo perché ci serve? Perché ci fa capire una cosa, che tanto per il discorso, sul discorso dell'emergenza, e le ultime sono il terrorismo di matrice islamica all'indomani del 2001, la mafia che è sempre verde come tipo di cosa, e almeno queste due. Su questi elementi qui viene costruito lo stato d'eccezione. Mi ricordo addirittura durante l'operazione Piombo Fuso che condussero, diciamo, Israele contro i palestinesi, eccetera, ci furono grossissime manifestazioni qua a Milano di arabi, me ne ricordo una imponente, migliaia e migliaia di persone, e dalla piazza erano quasi totalmente assenti i compagni. All'epoca c'era Hamas dentro, soprattutto in Palestina, eccetera, e c'era una forma, diciamo, di sudditanza ideologica o un ragionamento che veniva fatto di stigmatizzazione del mondo islamico, eccetera. Dico questo perché? Perché quando si vanno a guardare le cose, oppure quando ci fu l'invasione dell'Iraq o dell'Afghanistan, il fatto di solidarizzare anche in termini molto generici con la resistenza irachena, si traduceva immediatamente in contiguità a quel tipo anche di ideologia che, tra l'altro, spesso banalizzata, senza alcuna distinzione tra il mondo sciita e sunnita e senza alcun tipo di riferimento alla complessità di una guerra, di una situazione storica, culturale e politica. Quello che ti viene posto, l'abbiamo visto anche in pandemia, o col discorso della mafia, o anche sulle ultime vicende dei processi del Giambellino e del Sicobas, uno schieramento ti viene chiesto, o sei di qui o sei di qui, o sei con noi o sei contro di noi. Anche durante la pandemia abbiamo visto che molte voci autorevoli hanno dato conto di una situazione molto più complessa, molto più ampia, che non si poteva banalizzare tra pro e sivax, pro e contro qualcosa, ma doveva tener conto dell'evoluzione del sistema capitalista, dei processi di privatizzazione, dello smantellamento del sistema sanitario, tante cose, anche dall'inquinamento che siamo costretti a vivere, l'approfondimento della nocività. Troppe cose di cui si doveva tener conto, si deve tener conto per formulare una valutazione, articolare un ragionamento e poi produrre delle lotte. Tutto questo non conta, ti devi schierare o di qui o di lì. Lo stesso vale a dirsi per la mafia, c'è parecchia letteratura, io cito solo un libro che varrebbe la pena di leggere, che si chiama Le Cayenne Italiane, e è una rassegna di lettere di una serie di detenuti all'indomani della strage di Capaci, portati nell'isola di Pianosa e detenuti lì per 50 giorni, cioè anche successivamente, ma i primi 50 giorni sono stati veramente molto duri, presi già da carceri, diciamo, dove erano già presenti, già classificati come detenuti mafiosi, eccetera. Rendiamoci conto che in 41 bis ci sono, e nelle sezioni AS1 dove ci vanno i declassificati 41 bis, il 97-98% sono meridionali. Come a dire, sono meridionali, è come dire nelle carceri ci sono il 40% di immigrati, qualcuno a destra dice, sono immigrati. Cioè, una realtà che dà ragione a se stesso, se sono immigrati è perché commettono reati. Invece no, è perché ci sono ragioni coloniali che determinano che una tipologia di persone sta in quel carcere. Con questo dobbiamo dire: non esiste la mafia, non esiste il terrorismo islamico, non esiste il virus della pandemia o altri virus. Non è questa la realtà, non è questo il ragionamento che si vuol fare, ed è proprio quello che ti vogliono spingere a dire. Il problema è che non si può accordare alcuna fiducia alla narrazione dello Stato in questi temi. Uno, perché abbiamo visto in tutti e tre i casi, col terrorismo di matrice islamica, con la mafia e con la pandemia, una contiguità, una contiguità di interessi e quantomeno un sistema che produce questo tipo di risposte. L'abbiamo visto per esempio rispetto al terrorismo di matrice islamica, il ruolo che hanno giocato le milizie all'interno della destabilizzazione della Siria, che avevano sede in Turchia, che è il secondo paese NATO. Ma anche a livello della mafia abbiamo visto come la gestione mafiosa si è resa non straordinaria, ma si è resa sistema, ad esempio nel racconto che faceva il compagno del Sicobas, ma lo abbiamo visto dall'inizio delle lotte della logistica, come il sistema delle cooperative diventa un sistema di gestione ordinaria della forza lavoro e non eccezionale, che quindi va sventata. E quando leggiamo sui giornali arrestati 180 e ora sono sotto processo, dobbiamo andarci a guardare dentro, non possiamo prendere per buona questa narrazione e non possiamo prendere per buono il fatto che lo Stato faccia la lotta alla mafia come fa o come abbia a cuore la salute di tutti. Quindi il ragionamento attorno al 41 bis ruota proprio attorno a questo: se si accetta uno stato di eccezione, anche un piccolo stato d'eccezione, ma solo per quella tipologia di quei mafiosi che sciolgono i bambini sull'acido piuttosto che quelli che sono andati a sparare alle donne, se si accetta questa narrazione, che chiaramente è volontariamente posta a presentare un fenomeno come avulso dal contesto sociale, come un qualcosa di assolutamente mostrificato, come qualcosa che appunto viene presentato come il nemico in assoluto e non invece come un processo, un qualcosa che ha ragioni sociali di maturazione e ha oltretutto una dinamica di classe che noi riteniamo centrale in tutte le cose, perché una società divisa in classi produce una lettura che deve essere principale. La lettura dei fenomeni da un punto di vista di classe è la bussola con cui orientarsi, il resto viene dopo. Non c'è una bussola ideologica, una bussola religiosa, un qualcosa di etico prima di questo. Questo regola i rapporti sociali e questo deve essere quello che regola il nostro modo di vedere le cose. Anche perché il ragionamento che faceva Pino, io mi ricordo quando hanno istituito quelle due sezioni, proprio perché come premessa noi abbiamo cominciato come collettivo sul ragionamento del 41 bis, proprio perché il ragionamento era: non trattiamo il 41 bis come un qualcosa di piccolo, come un qualcosina che riguarda alcuni, importante, perché non si fa mai una cosa del genere, però riguarda pochi, il carcere è molto grande, quindi occupiamoci, molti dicevano per esempio, occupiamoci dei fenomeni più grossi. Il problema è che il 41 bis, il momento in cui rappresenta uno stato di eccezione nelle condizioni detentive, non solo detentive, anche del rapporto giuridico, per esempio il ruolo della difesa, no? Questa cosa finisce che si generalizza all'intero corpo, diciamo, detenuto e anche fuori, cioè gli stati di eccezione che vengono introdotti anche fuori si generalizzano, anche perché quello è anche uno scopo, ottenere un grimaldello per forzare una porta e poi aprirla del tutto. Faccio l'esempio per esempio del processo in videoconferenza, che prima era prerogativa dei detenuti in 41 bis, oggi il processo in videoconferenza lo abbiamo visto utilizzare per ragioni anche d'ordine pubblico in tantissimi altri processi. Il fatto che in 41 bis non si possano tenere più di tre libri, abbiamo visto che in alcune sezioni comuni, per esempio a Rebibbia, ci hanno scritto e hanno detto: oh, mi hanno detto che sto libro non lo posso tenere perché non possono essere più di tre. Dici, poi non cinque, tre. Quindi chi ha fatto questo tipo di ragionamento? E non era una sezione a 41 bis. Quindi c'è da tener conto proprio di questa cosa qua, che non possiamo da una parte accettare la narrazione dello Stato su una serie di fenomeni di allarme sociale, e anzi su quelli va sviluppato inchiesta e un punto di vista autonomo e indipendente. Due, non si può concedergli nulla, nessuna credibilità, perché se ha anche l'autorità di procedere in certi dispositivi non ne ha sicuramente l'autorevolezza, e su quello non si può concedere nulla, e invece molto spesso molto viene concesso, anche perché c'è una presentazione di opinione pubblica. L'abbiamo provato anche a sintetizzare nella chiamata di questo appello, non so se ci siamo riusciti, però con i media, con i social media, con la tecnologia, si ha l'impressione di un'opinione pubblica completamente schierata, che poi magari è virtuale e che però essendo percezione di opinione pubblica schierata, alla fine funziona come opinione pubblica reale, cosa che invece nel momento in cui si muove qualcosa e si prova a cambiare l'esistenza si nota che non è così. Per esempio, varie occupazioni di case che sono state fatte, che ti aspetti di popolazione immigrata, che ti aspetti di trovare un'ostilità totale, magari una mosca bianca, le cose non vanno così. Trovi in realtà molta solidarietà. Nel momento in cui la cerchi, trovi solidarietà. Vedi persone che vengono fuori dall'individualità e si esprimono in un'altra direzione. Ok, chiudo, perché mi fanno così, quindi va bene. Dico soltanto questo, rinnovo l'invito a presenziare il giovedì 1 dicembre davanti al Tribunale. Grazie. Alle 10. Grazie. Grazie a tutti. Sono 3 ore che stiamo parlando. Io dovrei dar la parola, ma preferirei prendere quello che diceva il compagno del comitato del Giambellino, che questi incontri si ripetano e che quindi si producano delle occasioni in cui chi non è riuscito a parlare oggi parli la prossima volta. Abbiamo incominciato con Alfredo, vorrei finire con Alfredo, nel cuore che la sua lotta è la nostra lotta. E ricordo, lui non abbiamo citato se non di traverso Juan, Ivan e Anna, che lo hanno seguito nello sciopero della fame. Ora pare che Juan ha fatto un mese, come aveva detto, e ha smesso, però anche con loro io farei un grosso applauso per loro e un abbraccio, che non, anche se come se fossero qua. E ricordiamo allora l'1 e il 3, è il corteo del 3, lo sciopero è il corteo del 3.